Roberto Claudio. Beh, Franco, rapportante mi hai conosciuto. Un po' che ci sento ancora, là. Mezzo sordo, ma qualcosa la sento ancora, la riconosco, da come stai? Bene, staccato adesso. Per il cantiere, qua sto casa, fatto la barba a luce. Mi sto sedendo fra. Ho acceso la radio, io come sempre per me trasmettere da un corpo di importante, non si sa mai che sia qualcosa che non va. E tu, a posto? Sì, tutto a posto, stavo sentendo anche un po' la macchina, l'altro giorno ho fatto un po' di danno, magari facendo fuori strada qualche staffa un po' piegata lì del gancio traino, mi ha dato una sistemata, volevo spostarlo da lì perché è troppo sporgente verso la parte posteriore, volevo metterla più all'interno in modo che sia più protetta, soltanto che non avevo le chiavi abbastanza robuste da poter mollare quei dadi, che sono un po' massicci da. Ci vuole un bel cricchetto, una bella chiave lunga, un manico lungo. Sbloccarli e spostare la presa. Tutto qua. No, e non. Ma il gancio perché lo lasci attaccato, non si può tenere, eh? Il fratello hanno fatto 36 euro di multa. Questo è. Non è di quelli attraibili, capito? È tutto abbullonato. Ma non è omologato quello. Quelli omologati sono quelli estraibili. Il fratello c'era estraibile, la bandolina non era tolta, ha fermato la strada, ha messo 36 euro di multa. Non sono più omologati quelli, sono pericolosi, capito? Lo devi cambiare, caro mio, devi mettere estraibile. Eppure è stato montato l'anno scorso, cioè nuovo, come è omologato il libretto. Nel libretto c'è scritto, quindi penso che sia tutto in regola, Sì, l'omologazione del libretto sì, però non ha sicuramente l'omologazione, quello 9000, come che si chiama, estraibile vuole fare. È sempre perché può essere è pericoloso per i pedoni, ma c'era scritto anche, l'ho letto da qualche parte, per quando fai retromarcia, cioè è pericoloso, crea danno a terzi, c'è scritto, non so, capito? Anche per i tamponamenti, per queste cose, non so, informati bene, per 36 euro li hanno fatto mio fratello. Per quello ti fanno pagare anche l'assicurazione, paghi licenza il 5% in più proprio per queste cose. No, il mio non sporge perché? Perché io dietro ho la ruota di scorta che è molto sporgente, quindi il gancio rimane all'interno rispetto alla ruota di scorta. Però dico che sia per quel motivo lì, non lo so, però se uno si sbatte, insomma, sono 20-25 centimetri di pipetta. Non lo so, forse per la macchina come la tua, ma la macchina normale deve essere estraibile, capito? Deve essere estraibile. Lui c'ha la classe Bimsen. Deve essere estraibile. 36 euro li hanno fatto. Infatti è incazzato meglio, c'è la segna l'ottogo. Lo lascia sempre attaccato, c'è un carrellino ogni arlo, c'è un carrello. Una bella campagna. E c'è la segna l'attacco. Lo metto nel cofano, quando mi serve lo attacco. Se la lampati. Lo so, però comunque anche nell'altra che avevo, io l'avevo girato al contrario perché era di quelli a piastrina, non era estraibile, però aveva quattro bulloni ed era attaccato tramite questa piastra alla parte esterna. Siccome il ponte era una specie di ferro di cavallo a U, una V, c'era lo spazio all'interno e io l'avevo abbullonato dalla parte di netto, quindi il gancio praticamente mi rimaneva all'interno di questo triangolo di ferro. Invece qua, sì, volendo lo posso togliere, però devo togliere quei due bulloni che mi tiene anche la staffa della presa della corrente. Potrei mettere i bulloni senza ferro, non lo so. Comunque in ogni caso non è estraibile il mio. Vabbè, quando vai a fare revisione o informati, magari c'è un'altra clausola. Per le macchine come la tua, mio fratello no, non so, lo sto dicendo perché a lui hanno dato 36 euro e si l'ha pagati, vabbè, quando le ciance, allora che si dice? Certo, l'hanno fatta là, sto lavorando ancora qualche anno, cosa vuoi fare? Ringraziamo che abbiamo il lavoro, dai. E io sto lavorando sempre, poi invece mi si è fermato, sempre lavorando, c'è questo impegno con questa impresa che avevano necessità di un responsabile della sicurezza di cantiere, perché è arrivato un controllo, non c'è il responsabile, quindi faccio una sorta di capo cantiere. Facciamo tutta la mattina, da stamattina alle 8, solito a pranzo all'una, loro sono entrati alle 2, poi dalle 2 alle 5. E vabbè, bisogna fare. Per il resto tutto a posto, e niente. E di notte sono rimasto fino a mezzanotte e mezza qua, che stavo modificando un microfono messo a posto, pronto anche quello per l'uso. Hai visto, c'era gente? No, c'eravamo io e Tino, sino alle 8, così poi siamo andati a cena. Ci abbiamo fatto un messaggio per provare due microfoni che stavamo modificando e siamo rimasti sino alle 11:30, e poi io sono rimasto qua in stanza sino a mezzanotte e mezza, cosa c'è? Sì, va bene, dai. Avete risolto, sì, collegati? Sì. Tutto collegato, tutto fatto. E sono cose che devo dare, prima di darle le sto tutte provando, capito? Siccome non c'ho molto tempo durante il giorno, allora me li faccio la sera, va? Fate così, anch'io quando c'è un po' di tempo faccio qualche lavoretto, ancora devo fare la macchina, devo farmi ancora le piastre da mettere sotto, per non fare danno al cambio, queste cose qua, perché sotto c'è il filtro, proprio il tappo del filtro del cambio automatico, e lì se prende colpi ti va a schiacciare il filtro, ma poi non arriva olio al cambio, ti crea problemi, ma è surriscalda, cose varie. Quindi voglio fare delle piastre, non so se mettere acciaio, da 3-4 mm, abbullonarlo sotto, proteggere il cambio, poi il pezzo che va da davanti, dal muso, che va unirsi al pezzo centrale, che protegge il cambio, quindi diventa tutta una slitta in acciaio. Ma ecco, per quando vai a fare escursioni in campagna eccetera, bisogna proteggerla. Se un secondo mi sta chiamando Anna, fra. Venga, passiamo qua. Eccomi. Sì, facciamo scaldare un po' la bestia là, da 507, almeno a uno, così ogni tanto lo uso. Allora, c'è il 507, quello a 220. 220, sì. Qui saranno, una cinquantina modulati, tu. E io c'ho il padre di quello. Io c'ho il 2002 a 220, a 6 marce. Questo è a 6 marce? Ma il B507 è quello, io ho il 2002, il BV2002. Che eroga? Uno. Altro basilare con talori. No, è transistor. No, non li dà però, non li dà. Me ne dà intorno ai 600. In mano laterale, diciamo, 350. Sono per la 27, nuovo, nuovo, entro l'armadio. Dentro l'armadio, lasciamo stare lì che sta bene, non ne frega più niente stare a attaccare amplificatori, se serve però già lo tolgo, attacco il baracchino, tanto prende l'ingresso 15 watt, c'ho il baracchino, altro danno tutti 10, 15, 12, lo metto 10 watt e sui 500 già li tira fuori. No, io ce l'ho già collegato in parallelo, quindi devo solo attaccare e accordare leggermente, perché mi sposta un po' la quadratura, però appena gliele porto di nuovo a uno, sono più sicuro. No, non tocco tutto, io non mi interessa, due chiacchiere con questa faccio. Intanto provo qualche baracchino, anzi, adesso non provo più perché li ho tutti provati. Sono tutti a posto dove si entra la scatola. I due sono in partenza. Sicuramente domani uno è già via e l'altro non viene a prendere solo la prossima settimana. Sto andando, ne ho un bel po' di baracchini tutti sistemati, puliti, messi in ordine, li messi in vendita. Hai fatto bene, per tenerli così fermi, meglio che se li guarda qualcuno, dai. Beh, sono due nuovi, funzionanti, ottimi, già li hai sentiti. Ma perché? Sono quasi tutti uguali in modulazione, io sui microfoni ho tutte e sei la stessa modulazione. che cambia niente. Sì, no, no, solo uno mi sembra che c'è sottile. Cos'è? L'MB più 5 forse? No, quando mi hai sentito sottile tu stavo usando un microfono normale con il coso, come si chiama? Il Ranger. Quello non posso attaccare nessun microfono perché è a 5 o a 6, non mi ricordo. Non ne ho adattatore così, mentre gli altri già escono bene, quindi fortissimi. A Giulio le piace più il coso, come si chiama, il Superstar con le V5, col tale V3 che glitcha. No, questa già è questa roba seria, fregate. No, questa è forte, anche rispetto ad altri K che si sentono in giro, questa è veramente tarata bene. No, beh, io con il col K penso che a portarmi bene il K sia io Tino, anche Giulio c'è menino, c'è la voce molto acuta, però io e Tino, e quel pazzo di Natalino che non c'ha più, ce l'ha venduto, usciva molto bene lo stesso, però gli altri ci hanno provato, ma non lo so perché, va, dove Gabo e Bugnè, vabbè, quello là. Non la cosa. Ecco, volare, parlavo. No, tanto lo cappa. No. Ma sono stato sino ai notte mezzo, non so poco, dove mi ha già detto la busta. Non so se mi chiama stasera, Tino, buh. Va bene, va bene. Mi Massimiliano, 8 volte ci ha provato col K, non c'è scritto di farlo uscire bene, gli affra. K, facciamoci mia, sempre basso, non so dove sia, buh. Purtroppo deve essere una zona negativa per me. No, no, comunque il tuo, non so come lo sia regolato quello di Giulio. Vabbè, lui parla anche da lontano e non parla mai da vicino col microfono, però a te ti sento più forte. Io, questione di corde vocali. E allora Massimiliano, l'ho visto quel video, è Italia 1 di 20. Stavo toccando, perché è il suo mucchio in Gira e non ne avevo avuto il giro, è la tua ragazza che ti fa caduto, gli sta tirando un po' di. No, non è che io non lo so bene, io faccio una serie, ma io non lo so bene, con l'85 già vedo fare. Capo, dove sei adesso? Sì, io, a casa. Se tolgo, come si chiama, la NL per i disturbi, la radio aumenta parecchio, però sento le scariche delle pompe di calore. Aumenta Massimiliano, che qua sei basso, sei 9, perché? No, cosa vado a mettere, questo non è aereo, no, c'è qualcosa che non va, non sei 9, sei 7, 7 è un picchio a 9, io controlla. Cosa hai attaccato? L'antenna della VHF invece di attaccare l'antenna 27? Guarda se io muovo l'antenna così, se muove qualcosa. Milo mi, ogni picco che hai aumentato. Hai visto c'è qualche problema lì? Mamma mia, come sto? Beh, va adesso. Cappa. Io, come sto? Devo rifare il PL nuovo, dai, mamma. A chi riesco a farlo, boh? Se no chiama cosa te lo fai fare? Vai a Fusaro, mi te lo fai fare a Fusaro. E adesso sono da tanto che non le faccio, Bene, va così? Sì, adesso il segnale non è altissimo, però adesso è aumentato parecchio anche la radio, No, la radio non la posso toccare, questo picco di modulazione, cioè da 2 a 26, però non c'ho la regolazione dei watt, capito? No, così sei tu, dai, così va benissimo, non ho problemi con gli ascoltati, arrivi molto bene, dai, va benissimo. Non sai perché faccio questo problema, perché, vabbè, è perché non c'ho il tuo numero, perché se ti mando la foto e ti faccio vedere come sto modulando ti spaventi, attacca e stacca, mi Claudio già lo sa. Accampato, sì. Accampato è perché ha fatto dei lavori, quindi adesso sta cercando un campo atterraggio dove mettere l'attrezzatura. Vabbè, ma ci vediamo, se non c'è il baracchino con il vatte regolabile, vieni qua, te ne do uno io. No, non ne ho voglia di aprire le scatole, mi Claudio. Già lo sai. Ci ha detto malissimo. Ne ha 10 dentro le scatole, fra i baracchini, ma baracchini seri, però. Adesso sta usando quello stacco baratto che le è capitato in mano per appoggiarlo. È appoggiato sulla sedia. Perché lì sta facendo lavoro e quindi ne ha smontato tutto, se no già era ben organizzato. E beh, decise dove metterli due o tre baracchini seri. Ma sicuramente li metterò lì. Dove ho fatto le scale nuove, come giri lì l'angolo e tocco con la panca, mi sa che faccio qualcosa. qui non devi trovare, come abbiamo letto. Niente roba in più, quello che ti serve e sia a posto. Come ti ha già fatto io, c'ho uno spazio adesso in questa stanza allucinante. Due basi da 2,40 metri c'era, anzi una era 2,40 l'altra era da 1,60, 1,40 se mi ricordo, mi prendeva, già l'hai visto, potevo anche andare a aprire la finestra. Però nell'anno scorso con la corda della volgibile fra rotta non potevo passare per mettere la scala, ho cambiato l'altro giorno quando mi ho tolto la base, figurati, non poteva facciare la finestra, niente. Ha già bugato tutto, tanto, per quello che serve, ho lasciato le cose essenziali, c'ho più posto, ordinato e via. Sì, capo, c'è un po' di tempo e ti puoi dedicare a queste cose. Sembrano fecerie, ma se si accumulano col tempo poi è un casino farle. E così capita in tutte le case. E cosa volevo dire? Sì, mi ricordo che stava lavorando, stava consumando le dita con le struccature dei mattoni, dei battiscopi, adesso non mi ricordo cosa fosse nello specifico. L'hai già arredata, Massimiliano? Sì, no, gli ho consumato le dita facendo, stavo struccando le scale, capito, una domenica mattina. E l'ho preso proprio, ho preso lo stucco del colore delle scale, no? Per non del marmo. Ma questa venatura rossa dando in uscita, ma dove sì che non c'era niente, ma prendo i diti tutti campati. E allora ho cambiato dito, capito? Dai, sì, dai, ho finito tutto adesso e diciamo che mi ho arredato la cameretta di mia figlia, domani le piazzo la porta scorrevole. E così ha giù finito proprio. Anzi no, devo mettere le bugie, devo metterne ancora due o tre faretti, che adesso è giusto così con due fili con due portalampada e basta. E metto, va, toglimi questi baracchini da qui, perché non ne voglio vedere più neanche uno, portati questo cavo nero che non so dove va, portato da qualche parte, basta che non lo voglio più vedere in camera mia. Poche parole, io ho uno sgabello e un rialzo. Nello sgabello c'è l'alimentatore, nel rialzo c'è un baracchino, quattro gol. È una sedietta di quelle delle scuole di legno, mi dici. Mi fa, fatti due risate, ti ho mandato la foto di come sta modulando Massimiliano. E poi ti ho mandato la foto di come l'ha arredata, guarda che bella che è. Sì, dai, un attimo che controllo. KK, famiglia, io mi faccio proprio altri due passaggi, io mi faccio la doccia e vado a accompagnare a loro la scuola di ballo, c'è lezione privata, chita dalle 6 e mezzo alle 7 e mezzo. Capito più, perché non sta guidando più Daniela. Sì, però con la scusa che entra alle 6 e mezzo a fare lezione privata ci sono anche io. Lasciamo a Gaia lì alla scuola e poi noi andiamo a farci un giro là. Poi alle 7:30 andiamo a riprenderla. Va bene, va bene. Se mi fate la luce allora. Io sono qua, io mi sono salito poco fa da giù. Sono andati via alle 5 loro. E poi il cantiere, ho già fatto la luce anche io, mi sono seduto la finestra aperta, fumando una sigaretta. E poi vediamo dopo cosa fare. Oh, ma quella roba verde vicino allo struttino cos'è? L'adattatore di impedenza, cos'è quello lì? Che cosa è? Quella cosa verde che si vede a fianco allo struttino, cos'è? Un adattatore di impedenza? Un adattatore di impedenza? E poi non so che foto ti ha mandato, ma una cosa verde a fianco al baracchino, non so che cos'è, la placca delle prese, non so se è quella. No, una bottiglia di birra si vede. Ah sì, beh, io già vai, almeno quella ci vuole, là. Stavo scherzando, no, bel lavoro comunque, complimenti. Fra, io faccio totalmente un altro tipo di lavoro, però un po' mi ha dato a fare anche queste cosettine, quindi già mi arrangio qui, il 90% del lavoro me l'ho fatto io, mi Claudio già sa qualcosa. Adesso fra ti faccio vedere cosa fa lui, perché si mette a giocare, guarda con cosa gioca lui, guardati questo video, con cosa si mette a giocare non vi ci metto, vedi? Comunque anche io a casa ho fatto così, tanti anni fa ho fatto tutto io con qualche amico, qualche collega mi ha dato una mano, qualcuno così, e grazie a Dio piano piano abbiamo fatto tutto, dai, e ancora sta funzionando. Sì, anche qui là, Claudio Cesio mi ha dato una mano, qualche cosina l'abbiamo fatta assieme, però diciamo che tutto il 90% è stato fatto dalle mie manine qua. Sempre così mi Massimiliano, in mezzo a qualche trucchio, però già ci sa fare con un tonaco, qualcosa, capito? Guardate cosa fa lui, capito? Invece di fare il giro con quel giocattolino, no, guarda da dove ne è sceso, vai da Dio, pazzaredo, sì. Hai visto? Che misura è? 336, 429 quintali. È una bestia, guarda che bella, che è. E io si fa rispettare. Ma tipo bicicletta la tratta. Se lo vedo mi fai venire i brividi. Oh, se prova il nostro, da su già però, Il nostro sarà una ventina di tonnellate, però noi camminiamo su rotaia, su binario, ed è un ben stabile. Non mi assurda a me. È brutto, quando ti vedi su quei ponti lì, Filighetto, che sono 40-50 metri in sopraelevazione, e tu sei sopra un bordino, i rotini sono a 95 centimetri di distanza uno dall'altro, non lo so, è da provare, ognuno sa le cose sue. Sì, ma tranquillo, che sono tutti fatti apposta, Ofra. Tutta roba, amiche, io vabbè, adesso per me quello lì, per me è un giocattolo, non è più un escavatore grande, per me è un giocattolo perché faccio questo lavoro da tanti anni, però ne ho provato anche di peggio, devo dire la verità. Io ho lavorato anche con gli escavatori gommati che non è che sei come i binari, no, è come che sei nell'acqua. Questo è gommato, però si mette sopra, si allinea sopra la ferrovia, non so se l'hai mai visti, abbassi i ruotini e cammini su questo sui binari, dai. Sì, li conosco, li trasporta a Pitorra quelli. A volte ce li portano, non so, a Tempio, per non viaggiare lungo linea che ci mettiamo un sacco di tempo e distruggiamo le gomme, ce li portano coi pianali, no? Appunto, te l'ho detto, li trasporta a Pitorra. Lo so perché noi per la ferrovia ci lavoriamo, quindi lo so come funziona anche questo. Non sono mai salito sopra di quelli, ma non penso che mi faccia più di tanto. Una volta in una curva non riuscivamo ad andare avanti che deragliava, la ruota esterna si arrampicava e quindi tendeva a cadere, cade giù dal binario. E se cade sui ponti in curva si è buttito, fate il nome del padre. Sì, vabbè, ma chi li usa, vai tranquillo, già sa cosa può sbracciare, come può girare, quanto peso può fare, capito? I trucchi ci sono poi, capito? Tu vai al limite sempre, cerchi di andare sempre al limite, quando ti va bene, ti va bene, quando ti va male, pazienza. No, eravamo in trasferimento, cioè senza vannuta, camminando e basta, non riusciamo a avanzare. Sicuramente qualcuno aveva deragliato, aveva piegato un po' l'asse che cammina su rotaia, e quindi in curva qualcosa tipo ti variava l'assetto, quindi qualche ruota ci scaricava, ci alleggeriva e tendeva a arrampicarci. Poi abbiamo messo di tutto, olio, piano piano, appena si arrampicava lo mandava indietro, dunque, e scendeva di nuovo a terra e via. Piano piano siamo riusciti a passare questo cavolo di ponte. Sì. Vabbè, io ho usato anche il ragno però, Non so se lo conosci il ragno. Sì, non l'ho mai usato però, l'ho visto lì a Fiume Santo quando aprivano facevano entrare l'acqua di mare dentro lo stagno. Ok, quello c'ha due gomme di sui bracci, no, c'ha due braccia lunghe con due gomme in gomma proprio, e poi davanti c'ha due braccia idrauliche, senza ruote. La usando i tappi che uso ti spaventi? Sì, anche quello lì veniva da noi per fare per sbloccare i letti di essiccamento dei fanghi, capito? Soprattutto quando erano un po' bagnati, entrava dentro il crimine, curava leva. Sì, già lo conosco, c'era Battista Spiga, ti ricordi, è lui che veniva da noi. Positivo, positivo. attivo, dai signori, io vado a farmi una bella doccia, va. Io ho la cibrugana, sono in terra dalle 4 mesi di manzano e non ne ho più voglia proprio. Grazie, in caso che rientro un po' in anticipo, già accendo. Se no, ci aggiorniamo telefonicamente domani, per dopodomani, finché parlate, no? Ti saluto, Fra. Una buona serata a te e a tutti quelli che ci sono al canale 10, ne ho 21, ma in ascolto sicuramente già ci sarà tanta gente. E alle prossime, là. Ciao! E cappa, ciao Massimiliano, alle prossime, buona serata anche a te. Tra un po' anch'io una bella doccia e poi anche noi dobbiamo uscire, abbiamo appuntamento con degli amici. Dai, avanti qua. Ciao Massimiliano, alle prossime, dai, se coincide a più tardi, se no già ci aggiorniamo al telefono. Saluti a casa. E dove devi andare, Fra? Giro? Aspetta, Cla, tu che sei il più in gamba della radio, là, non voglio dire il più anziano, ma gli anziani ce ne sono un bel. Non si può organizzare un'andata a casa, da qualche luogo, a berci una cosa, a mangiarci una cosa, tutto un pari, ma gente tranquilla però. Sì, stiamo cercando di organizzare, adesso non so quando si libera Stefano, perché ci aveva alcuni impegni, appena organizziamo già ti avviso. Allora ce andiamo lì allo Spizzito, al Burladero, rimaniamo una cosa, giusto per farci due risate, due chiacchiere assieme, anche per qualcuno ancora io non lo conosco, quindi magari anche con Franco, con Marco Antonino Condor, è parito della circolazione, deve essere che si è inguagliato anche lui, non sta più entrando. Vabbè, già ti faccio sapere Massimilia, dovevamo andare, però poi Stefano ha avuto gli impegni, era sempre a Urbe, quindi abbiamo rinviato, capito? Ma già andiamo e ti avviso. Va bene, andiamo al ristorante Pizzita che io ho visto, gli alloggiamenti non li mangio, Andiamo bene, ci sentiamo, ciao, buona serata a tutti, ciao ciao. Non ti preoccupare, andiamo dove vuole lei, ciao, buona serata e buon todos, vai Fra. Sì, a voi già, lì, Burladero, Spidete, Piazza Conforti a Nastro, là ce n'è. E così, dopo fai hai accennato a... come si chiama? Natalino, che fine ha fatto? Hai qualche notizia? No, negativo. So che ne hai fatto tutto, ma non so altro. Non so niente. Peccato, Sono vicino di casa, abbiamo offerto. Vabbè, a volte le cose non vanno come devono andare, purtroppo, cosa ci vuoi fare? Beh, almeno usare, non so, un portatilino o qualcosa, o provare a uscire in FM per non disturbare, tu? Non lo so, Fra. Sono scelte che uno fa, capito? Evidentemente sta facendo altro, non lo so. Non l'ho né più sentito né niente. Ok, Caponaro, dove devi andare? In Girella? Siamo a cena con degli amici, abbiamo prenotato loro e quindi siamo con loro, va. Vabbè, io ci vedo il dia, ma in settimana invece non è sabato. Quando? Oggi sono le 17. Sì, Alessio, sì. Ma è che io domani lavoro però, Avanti Alessio. Oggi è venerdì 17, ho detto, quindi oggi non si lavora. 17, 29 oggi. E lunedì è 13 invece. Ah, basta il microfono, si sente anche il frigorifero, si sente. Ecco, cambia se Baracchi l'ha fatto così. Ha messo a 5 adesso l'amplificazione. Sto usando le l'anno 87. Lascialo così che va bene, io per me va benissimo. Anche per me. Sente sempre a manettone. Ha fatto il 17, 29 oggi. 1:30. A Juve matto si è detto lì a mezzo le balle. È troppo lungo. È finito, Aspettiamo il 1° aprile e ti diamo la pensione. Il 1° aprile ti darò la pensione, ma l'invalidità. No, una cosa mi stavo uscendo. La pensione. Ti avranno letto e stai dando la tua pensione, te l'hanno. No, non offendere i pensionati. La pensione di cittadinanza? di mancarci da, come si dice, di macchine, cittadinanza. Ma prese, era una prova tanto, ma ok, tutto a posto. No, mi è arrivato il foglio, c'è il foglio, arriva più che altro il messaggio. È arrivato anche Giuseppe oggi, era contentissimo, perché gli aveva fatto il CAF e non si è visto niente. Gli ha detto fallo alle poste e vedrà che ti arriva entro due giorni. Infatti gli ha dato la... è arrivato il messaggio e quindi è a posto. Giuseppe, adesso bisogna che aspetta a capire per sapere qualcosa, capito? Spero che gliela accolgano a lui, a me, agli altri, non lo so. Se non me la accolgono, pazienza, a me non è che me ne frega qui tanto. Tanto prendo 400 euro ogni mese io. Andiamo in affutti, c'è bastante, già va bene. A lui mi fa piacere se gliela... se gliela approva, almeno respira poverino, può fare qualcosa in più, prendersi una macchinetta, qualcosa, vediamo. Avanti fra. Mi ha spesso un telefono un attimo. Vedi io. Noi siamo passati stamattina in via Levante, in macchina, perché stavo andando in banca e ho visto che c'era la macchina di Giuseppe, la marciapiede lì vicino a Nicco. Io non sono entrato perché ero in fretta. No, io sono un cervello, la pensa. Sono entrato una mattina e... ma 10 minuti e poi me ne sono andato via, c'era la moglie, c'era. Poi sono andato via a casa direttamente. Sì, c'è sempre lì, e beh, però mai di questo lavorando. C'è solo la domenica, capito? Quindi c'è sempre lì. E vabbè, ma già si difende bene, non ci sono problemi. Una bravissima persona. Una bravissima persona, quindi. No, io non ci vado più come prima perché sono incasinato la mattina, c'ho questo impegno del cantiere, fino a quando non finisce sto cantiere non mi posso muovere, capito? Adesso tra l'altro lunedì è arrivato materiale, quindi devo distribuire tutto il materiale scale per scale, perché stavo facendo anche i placcaggi nuovi, dei poggioli, e quindi sono impegnato qua. Mi sono salito per le 5 questa mattina, capito? E vabbè, gli impegni sono impegni, almeno mi tengo un po' impegnato. Vabbè, meglio così, almeno quello. No, io tutta la mattina mi... mi sono svegliato alle 6:30, sono andato via San Camillo, arrivo lì, ci mancava metà della roba, allora ho detto a Giovanna, torna indietro, sale a Sassari, piglia la documentazione, arriva a Sassari, cioè arriva di nuovo lì alla... come si chiama? Gli do la documentazione, ha fatto la domanda per la carrozzina e per l'elevatore, per Giampiero. Così almeno se rifugia a casa, se piglia il banco, va al bar, se piglia le sigarette, se piglia la birra, se siere, con la carrozzina elettrica, così viene a casa, vicino a casa, tu non vedi? Con mouse. Non sto andando neanche più da Andrea per il caffè la mattina. Che c'è più posto, si può entrare a mangiare anche chi vuoi bere un caffè in piedi, tutto attaccato, è troppo piccolo quel bar, c'è troppa gente, capito? Per sederti devi aspettare mezz'ora, allora me ne vado al Tris, mi siedo 10 minuti, un quarto d'ora, fanno il caffè, do un'occhiata al giornale, siete e poi me ne rientro a casa. Non fa, quindi la domenica mattina ci può andare, ma secondo l'orario che va non ci posso neanche domenica mattina, capito? Non è che cosa che mi sta delineando quando mi sto prendendo il caffè, cazzo, ti alitano, ti appoggiano, ma vai. Ma è sempre pieno. Allora dico veniva a tenersi, cioè, prendersi il posto lì all'angolo, mi dove stavo vendendo L'Alago era stato bellissimo, perché aveva avuto il cambiato di sopra, rialzato, lì poteva fare tranquillamente la cucina, e sotto faceva il circolo, lì dove vedono le ceramiche mi sto parlando, quello è molto grande quel locale, e anche giù addirittura, avevo fatto un sacco di soldi, poteva fare il piano terra, il primo piano e il piano rialzato. Il piano rialzato faceva tranquillamente la cucina e non avrebbe detto niente a nessuno. E avrebbe cucinato e avrebbe fatto un sacco di dinamica. Sì, ma non hai capito che dove lui adesso, dove c'è la bottega di Andrea e la farmacia, quelli suomi, hai capito cosa ha fatto? L'ha diviso in due quello, e la metà l'ha affittata la farmacia. Ma ecco, ma tu sei scemo, ci fai un buco, spostati in quello più grande, no, che c'è, che è tuo, e la farmacia te l'affitti dove c'è il baretto, il bar adesso, capito? Che ci ha fatto lo contrario? Dove c'è la farmacia di Andrea, mi hai capito? Dove c'è la bottega di Andrea, quello locale tutto intero, l'ha diviso in due e metà l'ha affittata la farmacia. Non vuole fare lo sbaglio che ha fatto fare scarpa, c'ha anche ragione me. Con i dipendenti che c'hanno puoi fare il passo più grande della gamba, il discorso è quello lì, hai capito? Se per questo, guarda, era molto meglio lì dove ti sto dicendo io, dove c'è un negozio di ceramica, l'avrebbe preso lui, c'è il piano rialzato sopra, sarebbe stato bello, tranquillo, avrebbe fatto lì la cucina e sotto avrebbe fatto il bar. Dopodiché nelle scendi le scale per dire eccetera eccetera, avrebbe fatto il locale per fare tanto per sposalizi, roba del genere, capito? Perché è molto grande quel locale lì. Vedendo quello avrebbe fatto 13. Ma va bene, non vuole tenere, cioè, non vuole rischiare, capito? Va bene, visto Scarpa cosa ha fatto. Si è ingrandito, è vinto in mezzo alla merda. Tutto lì, quindi secondo me fa bene. Conviene avere ogni mese qui sul diventato sempre pieno, farà giro, non c'è mai posto, già essere andato non c'è mai posto sotto casa mia. E la via, guarda, dove ci sono pochi abitanti, ma sembra di essere tutto carbonato messo insieme, non c'è posto di metterci una macchina, e tantomeno un lago. E per quello che lo sto dicendo, cioè, beh, certamente me l'ha fatto bene, però io me l'ho fatto al contrario. Visto che roba sua, non paga affitto, non paga niente, la farmacia gliela dai, però dove tu c'hai il bar piccolino, tu ti sposti dove c'è la farmacia che è più grande, sempre lì sei, capito? Che stai facendo qualcosa in più, come ha fatto Scarpa, no? Che ha fatto un palazzone lì, era buio, fallito, ne ha rimbugliato tutto. No, io non ci vado per quello, sotto ricerca. Ogni tanto ci vuole, infatti dice, è altro più visto, io e Andrea siamo impegnati, noi che la mattina possiamo venire qua, capito? Trovo una scusa, però la scusa vera e propria è che no, non c'è posto. Io vado a rilassarmi, capito? Esco proprio presto, perché poi mi sistemo il cane, poi sono impegnato col cantiere, quindi no, vado dove mi siedo 10 minuti, ma vado presto, mi alle 8:30 vado. Vabbè, sì, quando la rivedi, ma dagli 8:30 è pieno di gente, fino alle 9:30, cazzo, ma non trovo nessuno, se ci vai al Trisi, ti siedi, anche se c'è gente ben grande, spaziosa, mi siedo, a volte trovo qualcuno, faccio due chiacchiere e poi me ne vado perché devo lavorare, anche se non ho, appunto, il cartellino da timbrare, però devo essere presente, perché se viene un controllo e cercano... Il responsabile della sicurezza non c'è, per fermo i lavori, è già metto in casa. Capito? Però, ripeto, la motivazione è quella, non c'è posto, è un buco, è troppo piccolino, cazzo, troppo. Mi è bello anche l'estate, tu vai d'estate, è pieno dentro con l'aria condizionata. Fuori non c'è posto lo stesso, ma qui a dire in culo. C'è una tenda fuori, non ti preoccupare. Il giorno che ha fatto quella specie di domenica, ha fatto un palazzo, cazzo, c'era un favorello, uscito fuori e gli ha detto, mi è venuto a capire, tranquilli, tranquilli, intanto non piove, ha detto, state tranquilli, se non volevo i tavolini di domenica mattina, fino a, a sotto per la tua mamma. Lui, lascia perdere, è un bel posto sicuramente, c'è un'occasione da vendere quel bar, perché quando entri e quando esci il saluto si sente in Piazza d'Italia, è un bel bar, poi il caffè è buono, sono puliti eccetera, però è troppo piccolo, c'è tanta di quella gente, troppo piccolo, la mattina che c'ero io, ero in mezzo, una piramide a una parte e un armadio all'altra, non riuscivo manco a girare il caffè, no, te ne va. Infatti non sono più tornato, più di un paio di settimane che non ci vado. Poi ho detto vado al Tris, mi siedo, mi portano al tavolino. Quei 10 minuti per svegliarmi voglio stare tranquillo, capito? Non fa, assolutamente. Va bene, va bene. Quindi tutto a posto, c'è un po' di venticello, però anche oggi è una bella giornata. Sì, c'è caldo, ho portato il cane perché mi stava girando la balla più che altro. Ho parato giù, ho fatto parlare la pipì e un giubbotto e c'era caldo. E poi sono andato in cose, in farmacia, sono andato alla Coop, ho visto che ci sono gli sconti, ci sono. Sulla carne, l'agnello e costole e gamba senza aggiunta, 8 euro. Poi c'era 10 euro, mi sembra che ho visto, costole lo stesso, con l'aggiunta del fegato, eccetera, eccetera, no, non è sbattuto nulla, la verità, perché io l'agnello non è che lo mangio una volta ogni tanto. Mi sono rientrato, Ehi, che fa? No, agnello. No, adesso per Pasqua perché per sentire, ma giusto così, per tenere lo sfizio e basta. Vai, fra. E io sabato mi ha mangiato la mamma dell'agnello, la prima pecora della stagione, era di quelle un po' malandate, e la teneva dentro, quindi fino a secco l'aveva mangiato. E era buona, era abbastanza grassa. La pecora cosa ha fatto? Pecora in brodo, costine, cosa ha fatto? Ha fatto parte, l'ha fatto a brodo, e poi abbiamo bagnato anche il pane su zicchi, col formaggio, e poi tutte le costolette, che la cuoce le abbiamo fatte a rosso, a bistecchine, aglio, prezzemolo, il peperoncino e via. Allora così c'è buono, c'è buono, per la pecora a casa non si può fare un fiago allucinante, no. Campagna, sì, campagna già la facciamo, ma a casa no. Una volta non si andava più, la casa aperta 2 giorni è rimasta a casa anche di notte, poi il viaggio di brodo di pecora, perché è tale schifo, vai Antonio, come lo si è spostato, no, c'è il posto, sì, quando ero all'ultimo piano mi avevo fatto la base con tutto il sistema per lo stile, ma così in basso non lo puoi fare, capito, fra? No, l'abbiamo fatta, ero invitato da questo amico, quindi eravamo dopo Osilo andando verso Nulvi, una bella casetta, casa d'appoggio di campagna, ma c'era un salone che era stato boh, 15-20 metri lungo, sono tanto le pompe di calore e tutto, striminea, però le abbiamo fatte fuori, le abbiamo cucinato fuori. Andando, ma non è chiedi da Gian Piero Rotto, no? No, non lo conosco nemmeno. C'era una bella casa di campagna, un momento con quel calore, con il salone grande, il caminetto, anche lui c'era così, proprio da Osilo per Nulvi, prima di arrivare a Nulvi là, in mezzo, prima della cantoniera che c'è per entrare a Nulvi, già la conosci, la cantoniera dell'Anas, 100 metri prima, c'era una bella casa a Gian Piero e ne abbiamo fatto lì. A Osilo, a Nulvi, a Poaglie, a Chiaramonti, a Marti, a Laerzo, Pesce. Una vita ci ho lavorato lì. Mi mancano quei posti. Qualche domenica mattina mi siedo in macchina e vado a trovare tutti gli amici lì dove facevamo tappa noi, solo che poi il problema è rientrare. Buonasera. Ehi, ciao Gianni, ben entrato. Sì, così, infatti anch'io ero un po' preoccupato, non ero ubriaco, però sicuramente sarei stato positivo alla Coltest. Già la pesantezza della pecora, perché la sera sembrava ubriaco davvero dalla pecora, però ci vuole, dai, avanti Gianni. Ciao Fra, buonasera. Buonasera Claudio. Buonasera a tutti. Allora, quant'è? L'abbiamo fatta? Ancora no. Sto... Devo sbrigare alcune cose più importanti, poi mi do l'antenna. Capo, avanti qua. Ciao già, buonasera, per ascoltare. Sì, infatti, prima dovere e poi piacere. Futtidini, se hai altre cose a fare, fai quello che devi fare, poi l'antenna già arriva, non problem. Sì, Fra, ma anche a me succedeva, non è che, però, sai, il problema è che basta un minimo, no? E quindi ti bloccano, ti fanno casino, però io sono partito sempre tranquillo e sereno, ma... Che non commetti a bimba niente, il vino, poi la matta a caffè, quello ti rimane, il pericolo è quello lì. Se non sarei andato davvero, adesso inizia le belle giornate, domenica mattina avrei preso la macchina, magari sarei andato a Nulvi a trovare i miei tre ex colleghi, e poi avevamo fatto un salto a Marte, se lì all'aereo a trovare altri, insomma. Però poi tappa a tappa si tappa il colasson e addio. Un attimo, rispondo al telefono. E a me già non ti sei sentito in questi giorni, te bada. Cercato di capire un po' di cose, dai. cercando direzioni, controllando, vedendo, insomma, vabbè, è un casino da spiegare, comunque, pausa di riflessione, dai, chiamiamola così. Non so, a volte ci vogliono anche queste cose, a volte vado in tintio, proprio mi blocco, penso, faccio, ma poi, auguro a Bissarra, intanto mi oramai, l'andamento è questo, o ti impegni, o ti inventi qualcosa, o se no, i gonti rividi, e dove va? Oramai, con nulla è arrivato, non è mai così, nemmeno male, fortunatamente mi ha impegnato questa impresa che sta facendo, c'è già un bel, c'è da settembre dell'anno scorso, sto facendo completamente tutto nuovo, e ancora ne abbiamo, ha chiesto appunto se rimanevo in cantiere per non stare lui, perché quando vengono i controlli, capito, e mi ha fatto un foglio, dove sono responsabile del cantiere, sicurezza soprattutto, anche perché abito qua e quindi è un impegno, non è che ho il vincolo, se devo uscire posso uscire, però io quando mi impegno cerco di mantenerlo, e fortunatamente è matto il tempo, se no guardi, vorrei impiccarsi, mamma mia, me l'avevano detto ma non ci credevo. Poi chiaramente quando si arriva ad una certa età, l'esperienza, la consapevolezza cambiano, quindi chiaramente il mondo assume un'immagine ben diversa rispetto a quello che era in passato. No, beh, chiaramente se poi hai trovato questo impegno, ben venga, tutto fa brodo, come ti si dice. Basta che che non sia così troppo impegnativo, quindi va bene così. Adesso, mentre ti stavo ascoltando, stavo facendo una riflessione, che sto usando praticamente il baracchino con un alimentatore a 12 volts. Se riesco ad alimentarlo con 13,8, 14 volte, sicuramente magari riesco a uscire appena meglio. Quantica. Sì. Però non per allargare, 14 volte sono tante per un baracchino. Per arrivare massimo a 13, 5, non di più. Capito? 14 sono tanti. vado a 14 io con questo, 13 e 8, 14, ma non di più. Però i baracchini bisogna stare attenti, la maggior parte dei baracchini, soprattutto quelli vecchi, sono 12 e 5, 12 e 8, 13, ma non è che puoi darle 14 voci di si brucia. No, no, vabbè, nel senso 14 volte non glieli voglio dare, perché vabbè, dietro c'è scritto 13,8. Comunque adesso stavo riflettendo che adesso lo sto alimentando praticamente con un alimentatore stabilizzato da 12 volt, 5-6 ampere se non sbaglio, quindi ho detto magari con qualche volt in più magari cambia leggermente qualcosa, boh, non lo so, comunque così un'idea, una riflessione che mi è venuta così al volo. Ehi, vabbè, cosa pensi dei cambi? Un punto S non serve a niente. Sì, 9,5 abbondante qua, quindi a futidini. Già ti accoppio, come diceva qualcuno, già ti accoppio. Adesso poi quando ci sarà la possibilità di poter fare questa benedetta antenna, sicuramente uscirai meglio. Cosa te ne fotte fare? Ma ho già. A futidini. Franco, finito il telefono? No, ancora no. Va bene, allora telefona. Avanti già. Eia. Stavo guardando un po' di video su YouTube di gente del settore, sia radioamatori che CB, insomma, sia stranieri che italiani. Sto scoprendo un po' di cose carine, cioè, ce ne sono alcuni stranieri, minchia, poi chiaramente abiliti sottotitoli, cerchi un po' di qualcosa di inglese, la mastico, però veramente si trova gente competente e preparata. Adesso stavo guardando questo qua, che praticamente ha fatto un video su un'antenna così di emergenza per la 27, spiegando in dettaglio praticamente la costruzione, cioè la messa in opera con relativa misurazione delle stazionarie, un tipo inglese se non sbaglio, poi chiaramente collegata all'apparato, ghiccio, modulando, insomma facendo, sì, ci sono cose abbastanza interessanti, dai, quindi in questi giorni per ammazzare un po' di tempo mi sto dedicando anche a quello, insomma, vedere un po' di cose. Ma perché forse anche in qualche sito inglese? No, su YouTube. Su YouTube ho fatto delle ricerche, Radio CB Base Station, oppure Radio CB DX, insomma, ti ripeto, ce ne sono alcuni italiani, poi c'è un sacco anche di gente straniera, quindi ho visto un paio di video di un paio di americani che parlavano con l'Alaska, insomma, cose carine, cose interessanti. Ah, vabbè, titolo così, controllando, vedendo, però ci sono siti italiani dove puoi andare a vedere l'autocostruzione, capito, su tante cose. No, vediamo, con un attimo di calma già riesci a fartela questa antenna, però io non ho canne a pesca sotto aver regalato. Dobbiamo sentire quando senti a Gianni o più rumore, a vedere se c'è qualche canola pesca in più che non usa, vecchia, capito? E così eviti anche di spendere soldi, poi per i cavi, per queste cose, per fare la bobina, due PL, quelli già si tirano fuori da noi, dai. Futidini, già non è un problema, insomma, per adesso ti ripeto, non in questo momento a livello di antenna non posso fare niente. Ti ripeto, stavo guardando questi tutorial così, questi video, insomma, così, giusto per farmi, per rinfrescare certe nozioni e poi anche per farmi un po' di cultura in più. Qualche forum l'ho visto, ci sono già entrato per alcuni chiarimenti, alcune informazioni. C'è Roger K che, visto che è abbastanza, insomma, abbastanza attendibile, visto che insomma, si muovono bene, c'è gente che insomma ha competenze, quindi capito, ma vado ogni tanto, controllo e mi rinfresco un po' di memoria e poi chiaramente mi aggiorno e scopro anche tantissime cose nuove. Ho capito. Adesso vediamo se si riesce a andarti la mano a fare questa cosa. Insomma, mi fa Giulio male. Ne parlo con Giulio, vediamo un po' cosa si può fare. Ma ripeto, io avrei continuato per il momento così, poi si vedrà. Sì, per adesso va bene così. Poi già viene da sola. Già le cose già vengono da sole, senza bisogno di forzare troppo. Va bene così, sì, adesso magari quello che posso fare prossimamente magari riuscire a comprare un po' di cavo nuovo e un PL nuovo per l'antenna. Cercare di vediamo se, perché l'ho fissata a un tubo innocente grande che c'è su il terrazzo, però non l'ho messa praticamente alla fine del tubo, quindi voglio sperimentare prima quello, però ti ripeto, la posizione è abbastanza aperta, quindi non penso che cambi molto. E quanto deve salire, quanto può salire ancora? Quanti serve il cavo, barilotto, PL, per aggiuntare il cavo? No, vabbè, l'idea era quella di prendere praticamente, perché il cavo l'RG58, quello che sto utilizzando è vecchio, ti ripeto, era piazzato dentro il camper, si vede che è un cavo che ha già un po' di tempo, quindi si è un po' irrigidito, quindi sicuramente non è al massimo, per cui la prossima, cioè quello che voglio fare io è appena possibile prendere del cavo nuovo, il PL nuovo e cercare di sollevare l'antenna almeno quasi di un metro, dai. Sì, ma quanti metri te ne servono di RG58? Fammi capire. Boh, guarda, c'è tutto adesso, penso che siano 10 metri, 10, 12, boh, mi sembra, fai 12 metri di RG58, mi sembra, cioè dal baracchino all'antenna più o meno siamo intorno ai 12 metri. 12 metri, poi quanti siamo, 2 PL? No, un PL solo, un PL che va al baracchino. Quanto le va al baracchino? Se metti il cavo nuovo, ci vuole il PL su per attaccare l'antenna e il PL giù, no? No, sopra praticamente c'è l'attacco e ho spellato i fili e l'ho direttamente saldato l'attacco dell'antenna, isolato e silicolato, e praticamente non ha l'attacco PL su, capito? Sì, ma se cambi il cavo devi nuovamente disaldare, ho detto silicone, tutto quanto, capito? Quindi ci vuole. Se invece tu lasci quel pezzo lì, no, bisogna tagliarlo tu, quello bisogna rifarlo tu, abbassare l'antenna e rifare tutto, mettere il cavo nuovo dall'antenna sino al baracchino. Sì, ti ripeto, siccome il cavo insomma ha i suoi anni, perché si vede anche toccandolo, maneggiandolo, quindi sicuramente non è il massimo. E quindi ti ripeto, appena possibile volevo recuperare del cavo, che sicuramente gli farà bene, capito? Beh, se quel cavo è diventato rigido, è 58 non è rigido, vuol dire che è bruciato la rosole, vuol dire che non c'è più imperenza, non c'è niente. È chiaro che quello vuole nuovo. Vabbè, fammi guardare cosa c'ho io su Mansarda, mi pare. Qualcosa c'è di 58 buono, di quello 1000, a doppia calza. Controllo, poi ti faccio sapere. PL già ne ho, non sarà quello il problema. Così te lo metti nuovo il cavo. Ehi, senza impegno, Cla, tranquillo, senza impegno. Sì, forse tutto saranno tra pieghe, curve, insomma, per arrivare su saranno una 12 metri, dai. È una fesseria, qualcosa c'ho su perché io. Io avevo sempre i 58 per quando facevo i dipoli, quindi anzi quando mi facevano gli spoli, per meglio dire. Perciò qualcosa devo adesso controllo e poi ti faccio sapere. Così te lo stacchi, quello ti metti il cavo nuovo, piede nuovo e vediamo se migliori qualcosa, tanto io ho già il tuo riferimento, vediamo se è più. Se migliora il segnale vuol dire che era anche il cavo, capito? Quindi a quel punto lì cos'è di una frutta. Lasci quella l'antenna, la tiri su, quindi 12, per tirarla in punta, per metterla su saranno 15 metri allora. Sì, bucia tutto, sì, dai. Ecco, quello me lo, quel passaggio me l'ero dimenticato. Sì, mettendo insieme anche la possibilità di tirarla su, sì, 15 metri ci sono tutti, penso. Stai facendo lavoro, fai come Cristiano. Abbassi prima, ti saldi tutto il cavo, isoli tutto, poi la tiri sino su in punta, sino su in punta, piede nuovo e se le fa la prova, vediamo se si è migliorato qualcosa, capito? No, ti ripeto, è un ottimo segnale per quell'antenna qua, un ottimo segnale, si è quasi 9 più 10, quindi per me va più che bene. No. Franco, hai finito? Franco è cascato. Antonello motopompa. Seduti il VG di Giove. Chi ha il telefono? Chi è Fede Astro? Sì, vabbè. Già siamo qua, non c'è problema. Volevo dirti un'altra cosa adesso. Mi è passata di mente. Mi è venuta in mente una marca di paracchino che ho visto oggi proprio su YouTube. No, non era un baracchino, quella era una radio professionale che iniziava con la A. Adesso non me lo ricordo, ragazzi. Ti viene in mente qualcosa che inizia con la A? Baracchino o radio HF con la A? Radio professionale. No, io le marche ce le ho quelle. Insomma, in commercio, pieno degli esuri, come ce li ho. Qua, no. Oh, adesso mi è venuta in mente la. Stavo guardando questo. Insomma, la stazione di questo tizio inglese che praticamente ha fatto il video e praticamente ha una scrivania grande, praticamente con una parete in legno. Praticamente questa parete in legno forata con tutte le radio incassate, ma ne avrà avuto una dozzina, e aveva diverse radio, visto che c'aveva, mi sembra, una Incom, un Kenwood, e poi c'era quest'altra radio con un nome che iniziava con la A, però adesso mi sfugge il nome, guys. Radio con la A. Non so, non mi dice niente, magari non la conosco neanche, vediamo, se mi viene in mente qualcosa, non so, Franco. Kappa, che non mai anche il braccio, scusate. No, figurati, finita il telefono. Mi hanno chiamato loro, ma ne sta aspettando anche un'altra, è sempre occupato, troverà le chiamate e chiamerà lui. Vabbè, ci devi andare, che sono 7 meno un quarto. Ciu. Che c'è, Alessio? Via, è dal telefono, sono rientrato. Via, Thomas, qui c'è anche Gianni di Maffetta. Infatti ti ho chiamato, sicuramente l'hanno chiamato al telefono. Che prendi già? Eia. E allora Fra, adesso domanda per Franco. Hai modificato la posizione dell'antenna tu invece? No, è sempre lì davanti alla finestra qua. Ah, bene meda. Ma c'hai il padellino attaccato o sei senza? No, tutto liscio. Poco fa l'ho attaccato un paio di tacche, uno o due, si deve far scaldare appena. Ma è a transistor, quindi non è di quelli, non è un valvolare, dai. Mi sono ricordato a casa di un amico, ma ti sto parlando metà, fine anni 80, e questo mio amico aveva una piccola stazione, cioè aveva un 40 canali con le bande laterali, e poi aveva questo aveva praticamente un lineare a valvole. Mi ricordo che era il coperchio di sopra praticamente celeste, tipo in stile martellato. Non so se vi ricordate gli apparecchi americani degli anni 60 che aveva con quel tipo di, quella superficie ondulata con tipo l'effetto martellato, e praticamente con il pannello in alluminio, un finale a valvole. Cazzo, quando c'era il lampadario acceso, quando schiacciava il mic si abbassava la luce del lampadario, cazzo. Chissà da quant'era, io ho avuto il Jumbo, l'Aristocrat, adesso non mi ricordo quante valvole avesse, un paio me ne ricordo sicuro, un paio di valvoloni grossi, quello era nero, tutto forato a cerchi da 1-2 cm, forse un centimetro, dai, per raffreddare, aveva anche amplificato l'antenna, però anche quello consumava una botta. No, ma non servono più, oramai gli amplificatori sono tutto allo stato solido, non valvole, non li usa più nessuno. Consumano una barca di energia, sono pericolosi, eccetera. Sono passati, e anch'io ho avuto quei lineari grossi così per la 27 tanti anni fa. Uno ce l'ho ancora dentro l'armadio, un J27, che praticamente è stato costruito a biella, anche un buonissimo lineare, 4 tubi c'ha, L509. Però ti ripeto, non si usano più, perché proprio quello era il sistema, tu schiacciavi il VTP e si abbassava la luce del lampadario, anche perché i contattori che c'erano allora erano quelli vecchi, quindi la tensione non era molto stabile. Bei tempi. Vai Antonè. Facevamo l'amore, facevamo quel periodo, ogni notte, col lineare. Facciamo schiettare Alghero, bei tempi, muro di Berlino. Facevamo schiettare, come si chiamava quelli che c'erano di Alghero? Due CB che rompevano le balle. A parte di quei due tipi che hai parlato ieri tu, che c'è un'area privata, Gamma e Delta. Cavamo lineare, sa salire vecchio, la zona dei carbolazzi con la zona dei carbolazzi. Quanto che bei tempi qua, quanto mi divertivo. Poi anche per dirti tu la verità, quando veniva Valesco mi ha trovato il bivuccio con tutto acceso, questo cos'è? Tu lineare? E cosa te usa lì? Per scaldarmi le balle, perché c'è un freddo qui nel veranda. bei tempi. E lì si usa fuggiti. Io non potevo stare nel 5 perché i camionisti mi prendevano la voce, disturbavo un bel. Allora mi spostavo qua al 10 oppure al 23, al 20, al 14 ci andavamo 40 metri. Già, adesso è finito, ormai. Non bisogna camionisti, né elicotteri né aerei più. Ormai è tutto via telefono. Oramai con queste applicazioni nuove che ci sono, due ne ho sentito l'altro giorno, di mattina, stavo facendo dei lavori qua a casa e ho messo sul 5, e c'erano due camionisti che stavano parlando, li ho sentiti sino alla piana di Macomer, e poi sono spariti. Avanti fra. Ma sul baracchino normale, sì. Sì, sul canale 5, sul baracchino normale. Io un po' che non ne sento, altrimenti qualcuno c'era, poi sono passati sul 45 mi sembra, poi li ho persi anch'io, ma da qua non ho una posizione buona. Però mi ricordo che in campagna quando abitavo giù dai miei genitori, lì Alghero arrivava bene, era un po' aperto per quella zona. Comunque Gianni, dovrei avere qualche lineare ancora, forse lo Speedy valvolare, quello c'è una valvola forse, e da 100 watt effettivi saranno una settantina, dovrei averlo ancora nell'armadio, avanti già. Vabbè, no, già non ne sto cercando il lineare, non è paghiccio, no, mi sono venute alla mente, insomma, delle immagini di un tempo passate, di quelle che stava rievocando anche Antonello, cazzo, portanti, fischi, cazzo, frantemi, di tutto, cazzo, cioè, gente splatter, cazzo, su tutti i canali, gente che entrava in banda laterale, cazzo, con tutto attaccato e non faceva parlare nessuno, cioè, cose sconce, veramente, c'erano giorni dove proprio non si poteva accendere nulla. Avanti, cra. Era, come si dice, terreno bruciato per tutti, già mi ricordo già, se non avevo un apparato buono, serio, per dire il colpo da tutte le parti. Mi ricordo, chi ti ricorda Torre San Giovanni, te lo ricordi, cra? Sì, l'ho visto un mesetto fa, papà. Sempre grasso, Allora, grasso, brutto con la papa. Non ha ingrassato nulla? Cosa? Non ha ingrassato nulla? Sempre grasso e panzoni, Ogni tanto ci facciamo due risate. Ce n'era gente, io lo parlavo da Porto Torres, a casa di mamma, che aspetta c'era Ottava, c'era San Giovanni, di Puntia, salire a Piero, però poi si cresce, mollano tutto, abbandonano, io non mi piace stare qua a fare due chiacchiere, con tutto che posso fare anche altro, ma non avevo questa grande passione. Vabbè. Ero Gianni, mi abbiamo bruciato di volta, abbiamo pagato correnti all'Enel, per carità, sto immaginando quanto ne lo stavamo dalla mattina alla sera che veniva attaccato, due bestemmie ci tiravano a tornare attinamenti. Telefono un attimo. Ehi, io 600 fa, su 1000. Addirittura io usavo il cavolo conveniale, fino da tutti, 180, non l'avevano fatto nessuno. A quello che avevo lo facevo schiacciare, cazzo. E quanto ci pigliavo gusto, perché mi hanno con in banda la tale cominciavo con la mano qua. E si lamentavano, non ti sento, se avessi una sassola che ti sovrabodola, poi dimensione mia cosa ho fatto, ho messo il piccolo profumo normale sopra l'alimentatore, cazzo, alternata la cosa vicinata, non c'è Cristo, vuoi avere 500 watt, 600, quanto vuoi, te la porti sempre appresso. Io lo so, lui era goso, grattino, attaccava il microfono, cominciava a grattare, per carità, che casino che c'era in quel periodo, però sono periodi passati, belli e brutti, vabbè, allora, quattro iatti, sempre la stessa storia, non c'è più nessuno, oramai non conviene più investire niente nei baracchini, chi ce li ha si tiene quello che ha, ma solo i pazzi vanno a comprare baracchini per la 27, per avere che cosa? Per avere dentro l'armadio come comincio io li sto tutti dando, tengo uno solo modificato, l'era 48 la concessione, basta, il resto li sto tutti dando, capito? Proprio perché non vuole più a te, usa con parecchi, fatti gli intivi a dire questo ce l'ho, ma ecco, addio, riprendi già. Ehi, a proposito di Alan 48, insomma, c'è chi ne parla benissimo e c'è chi ne parla malissimo, adesso poi sicuramente quelli che ne parlano male dell'ultima versione di quel baracchino, perché chi ne parla bene della versione quella vecchia, sei d'accordo? Io c'ho la versione vecchia, infatti, c'ho la 48, prima versione, quello che si illumina con i cosi verdi e basta, mai stato modificato, originale, c'ho sul microfono da tavolo con l'MB5, nell'attacco, bellissima modulazione, guardatino, ti lascia con quello, esce benissimo, sono dei bei baracchini invece, la prima serie. E il problema è che prendono un sacco di colpi, sono baracchini da macchina, capito? Se lo attacco a casa, pianto si sposta in un altro canale, si accende e si spegne da solo. Infatti non lo uso mai, mentre gli altri che ho, più seri, quelli si può parlare. Senti, sì, un leggero fruscio, ti accorgi che c'è qualcuno in qualche altro canale, ma non, lo spatto non ne prendi. Quello proprio si accende e si spegne da solo. Sembra che ci abbia tre comando, capito? Vai Antonio. Guarda, l'unico apparato che ho avuto io bello, ma veramente bello, era quello di FT250, quello che in pratica non sentivo nessuno io. Si mettevano Gianni Natalino Alfa 1 per parlare con Roberta, e io non li sentivo, per niente, sotto casa mia. Loro parlavano neanche 50 metri da casa mia, figurati tu. E non li sentivo. E l'unico problema è che ti dava la scossa, l'FT250, usciva a 100 watt, perché usciva a 100 watt, però era in ricezione una cosa allucinante. Manda stretta, non c'era la chiesa che teneva, tu ti potevi mettere nel canale a fianco, non ti sentivo manco morto, ma ti sentivi addirittura, non senti che cosa. Quindi sono apparati belli, vedi, a quel periodo andavano bene. Adesso sono da rifare, non mi fai niente adesso. Si è pigliato lontezza in pratica, perché lo accendi e ti rimane in mano. Senta, a me già mi sono capitati quei baracchini, effetti 250, già lo conosco. Beh, erano 220, senza protezione, senza nulla, e veramente tirava la scossa, sì. No, comunque. Bella radio. Avanti già, datemi un minuto che andrà bene. Caffa, dai, rientra per salutarli, cra. Comunque, anche questo dà la scossa, questo valvolare. Lascia lì, mi sono cazzuttato. Ho toccato due cose, due PL. Adesso l'ho fatto da ponte, mi ha sudonato un po', dai. Ok, ciao Gianni, e ciao anche Alessio. Riprendi, cra, se puoi, sono Gianni, dai. Claudio, stacca un attimino. Ciao Franco, ben sentito? Dai, ci sentiamo appena possibile. Buona serata. E niente, bene veda. Antonio, cosa stai usando adesso? Sto usando la 87 con microfono Savelka. Già arriva bene, buon segnale, e la radio adesso è ottima. Sì, se la faccio ti sparo, infatti, guarda. Così a maletta, guarda un po'. Il televisore distante 10 metri, ed è al minimo, figurati tu. No, già va bene. Molto, ma molto, ma molto meglio rispetto alle altre volte. Comunque, andava bene, stavo dicendo che andava bene anche quella... il livello che stavo utilizzando prima, cioè rispetto a, insomma, ai giorni scorsi è migliorata tantissimo. Vabbè, sono usando 87, adesso anche poco fa addirittura, non so tanto. Io invece stavo usando l'FM500S, lo stavo provando e già esce bene, ma non è che sia tutto questo granché. In sezione vuole forse buttato la mandezza, la verità. Poi gli altri giorni stavo facendo girare il 2009, sempre 200 stop un canale, quindi figurati tu. Io ho apparati qua, la verità, no? C'è anche con le 4000, quello adesso me lo sistemo domani, pian piano non calma, mi sono pigliato lo stagno. Adesso vediamo il difetto che c'ha, che vedo di sistemarlo. Io sono come il cartolaglio, capito? La roba degli altri era giusto, la roba mia la lascio a parte, perché non la giocava. Ho capito. Lo so, è come il falegname, che vari gli anni, i balconi tutti fasciati, però mette a posto quelle degli altri, è sempre stato così. Guarda, osservazione personale, se la rimetti, si abbassa il livello come la prima, per me è ottimale, poi fai come vuoi. Andava proprio benissimo, era proprio super perfetta. Così, in pratica, giusto? Ehi, yeah. Così è per me personalmente, io parlo di gusti proprio a livello di proprio di suono d'orecchio, è proprio perfetta. Vabbè, lei è un apparato modificato da me, più che altro, capito? L'ho messo doppio modulatore perché non me ne frega niente di mettercelo, di fare spese inutili, capito? Mettici effetto Colt, effetto carciofo, effetto quello che non mai non si usa più. Quindi prima si usava l'eco normale, ripetitivo, si può usare l'orecchiare, poi in pratica hanno inventato questo effetto Colt, dopo l'effetto Colt, l'effetto gna gna gna gna gna, eccetera eccetera, capito? Tanto per vendere, è tutto lì. Ma non è che cambia molto la cosa. Ecco via. Avanti. E poi ho lasciato le modifiche, ma a febbraio uscì, spesi un sacco di quattrini, cosa, no, beh, sono lì dentro l'armadio, cassetto, mi piaceva lavorare con questa, tranquillo, pulito, anche con i baracchini, con il microfono a tavola, crescono molto bene, però io mi trovo bene con questa qua, che ho pagato, e vabbè. Stavo dicendo Gianni, ma stai notando con quello, come si chiama? Con quel Midland che mi hai mandato l'altra volta o con quella Zai? No, no, sempre con la Sassi, no, il Midland l'ho smontato, ho provato, praticamente ho staccato il circuito stampato che c'era davanti dove c'erano i due commutatori. C'erano due commutatori, uno a sinistra AM/FM che era rotto e poi c'era un commutatore sulla destra col canale 19 praticamente. Ho smontato il circuito stampato, ho scollegato il commutatore che comandava il 19 e l'ho messo praticamente al posto della AM/FM. Ho richiuso tutto e praticamente non va. Presumo quindi che quella radio abbia qualcos'altro, cioè era già un difetto che aveva già in passato, che a volte andava e a volte non andava, quindi non era solo questione di commutatore. Ma ecco, così è. Ma io scendo a portare il cane che è qua a mezzo ai piedi, sicuramente sta facendo pipì, devo portarlo. Se vi trattenete 10 minuti risalto, ok, riprendi Antonio. Aspetta, Claudio. Poi. Bene va questo microfono, normale, eh? Prova grande. Aspetta, vabbè dai, vai, vai. Ci sentiamo dopo, ciao a tutti, sto chiudendo. Sì, va bene però, bellissima modulazione. Che microfono è? È il Midland normale, però è in accoppiata con 48 che sto usando io col più 5. Va bene, va bene. Non tocchese, ci sentiamo dopo. Ciao ciao, buonasera a tutti, ciao ciao, a più tardi. Ciao, sì, bella modulazione comunque, come si vede? Va bene, chiara? Sì, chiara, senza essere ciattolo. Ciao Tino, buonasera, la radio è ottima. Figlia, chi è che sta salutando a mezz'ora? Tutto sato, tutto messo male, chi sì? Io non riesco a capirlo, dai. Tutto sato, tutto sai, ha detto. Io già l'ho capito chiaro, la verità, però non ho capito chi è. Quindi sono Eugenio, se non sbaglio, Emi. Ma chi sei, Marino? Eugenio. Eugenio, forse. Vabbè, sto chiudendo, ciao a tutti, a dopo. Ciao, ti a dopo. Eugenio, perché è arrivato poco fa, Santiago 5, adesso è sceso a 3. Ciao Marco, salutoni, ben entrato. Ma ciao a tutti, sono all'ascolto che non mi sento bene, dai. Ciao a tutti. Ti volevo chiedere, Marco, una cosa. Ma il padre Viva sta entrando in Cibitalk? Lui stava entrando, però io Cibitalk non lo accendo da settimane, un mese e mezzo, Sario, non lo accendo, un mese, boh. Sì, stava entrando, sui canali nazionali. Ah, ecco perché, no, perché ha avuto stamattina, mi ha telefonato uno stamattina, me l'ha detto, dice, guarda che sta entrando, dice... La persona mi ha detto è un po' arrogante, ma adesso ho detto, guarda, ha fatto solo io, gli ho detto, non sapevo che aveva fatto una, cioè CB-Talk, ma comunque sia, siccome stavo parlando delle, dell'auto che c'aveva lui, che poi l'ha venduta, hai capito tutto lì, allora ho detto, già capito che stai dicendo tu, gli ho detto. Perché lui in pratica ha detto come il nominativo che entrava in 27, hai capito, sotto lì. E basta. Gli ho detto, guarda, ha detto, lascialo perdere, ha detto Giuseppe, ha fatto così, gli ho detto, se c'ha la mania della grandezza un po', ha detto, poi non ci fare caso, ha detto, fusi dini, gli ho detto. Già si calma, come si è calmato, ha detto, già si calma. Fate l'amore e non fate la guerra, dai Antonio, non riprendo, dai, ci un saluto a tutti. E ti ha d'accordo, ok, vabbè, non c'è problema. Questo è un genio già visto, proprio la quando è produttore, si mi sa che si, i fumi della centrale di Fiume Santo gli fanno male. Assassino, denunciali. Ci sentiamo dopo che stanno alla porta del cane, ragazzi, dai, a dopo. Racconto Claudio. Marco ha messo in cinta una professoressa, hai capito, è OG. E quindi sta aspettando un figlio, ma lì a produttore se per ommi. Forse non ti siete franco. Si è spostato Franco, senz'altro. Cioè c'è... adesso mi viene mettendo, ma sì, tutto dico, Gianni. Si dice che ti ascolto, a voglia. Adesso va meglio, ti ascolto, Tino ti sentiva saturo perlomeno, io giusto, ti ascoltavo abbastanza chiaro, la verità, ma comunque sia, e la Tino c'è entrato dopo. Mi sono avvoluto per maniaco, aspetta tu che mi compri un nuovo lineare, vedrai tu la cena. Se ne approfittano perché sono piccolo e nero, meno per alto. No, così non va bene, adesso va a mutuarmi. Io non ne ho lineare, sono liscio. Ti sei fasciato, va. Brecco? Avanti. Antonio, buonasera, saluto il circolo a tutti. Dammi un controllo di segnale, com'è? Adesso sì, 9+20. Ho recuperato spezzone di palo, via Antonio. Li ho messi al volo, ma sono ancora a tirare bene, che non ce la facevo più. E niente, quindi sto procedendo bene, la direzione è giusta. Già ti credo che stai sollevando pari. Già pesano poco intanto, già con l'antenna. Sembra così leggera sollevare il telescopico, però c'è sempre la paura che sbagli la misura e te ne fai scendere tutto in testa. Ma chi è Antonio? Io lo sento basso basso. E Daniele. Chi c'è Bobo? C'è il maniaco di produttore, c'è un genio. Dio, lo ascolto. Lui non so se mi ascolta, però io glielo riesco a tirarlo fuori basso, mezzo a cuore me che c'è la manetta. E va bene, adesso la bobina è arrivata all'altezza della ringhia di quello di sopra. Niente, però mi fa mettere la saffetta, me la fa mettere, mi ha detto. Sto scendo? Sì, che stai scendo. Sto modulando a Daniele. Daniele, già ti ho sentito, buonasera. Scusate, un attimino, non puoi fare le proprie domande. Sto scendo io. Sì, stai scendo. Ma un attimo una volta, però ti sono modulato. Ho detto da schifo, sta uscendo da schifo. Da schifo? Ho capito, vabbè. No, era il microfono normale. Ma c'è qualcosa, perché sta... è tipo troppo compressa, non lo so. Comunque, Popo, diglielo tu. È compressa, compressa già è. Antonè, com'è la radio? Sei nuovo saturo. Vabbè, ma quello dipende dall'apparato. Va bene, grazie, ciao a dopo. Aspetta che mi attrezzo. Mi si cude che aggancio un salvezzo. Ehi Antonè. Scusate, questo sta uscendo. Adesso sì, adesso va bene. Vabbè, è il microfono che non va allora. Già va bene, già va bene. Branca, branca, branca, i sono al buio, aspetta un secondo, devo cercare il cazzo. Ne fa luce, due minuti. Marco. Avanti, avanti. Ma cos'è che sto schiacciando? Che non lo conosco questa cosa che sto usando. L'ho provata a casa. Sei tu. No, ma poi sta facendo bene comunque. Oh, so, dicono che è un baracchino, cosa serve? A parlare con muro. Se lo sapevo non lo accendevo. Infatti, quando mai non so cosa agiti, ma strana. Che cane morto che è. Oh, mi hanno detto di spingere il pulsante a me. E il cazzo è uscito. Non ce la può fare. Ascolta, ma tu chi sei? Chi io? No, quello più brutto, quello che c'aveva la voce più brutta, era il baforte qua. Io sono Paolo Falcone. Sono B2, da giù, capito? La B2, Nasu, Antonello. E vedi quel rumore che c'è sotto, che sembra che faccia, che friga le uova? C'è un rumore strano, non ho capito neanche io, già da parecchi giorni mi viene questa storia qua, non capivo cosa diavolo sia, fa gna gna gna gna gna gna gna gna gna. Facendo il corrente, sono rumore sottofondo, non è niente, non è niente. Ebbè, pomponio. Dimmi tutto, dimmi, sono qua. Cazzo, siamo tutti, c'ho gli occhi incrociati, Io non credo, cazzo, se ti metti a... come facevo io, se la passa la voglia lì di fare riparazione a un certo punto, perché c'è il coso, uno stampato ti fa riflesso, la lampada che c'è, e poi c'è anche la lente, e come andare alla... come ti posso dire... su nelle Alpi senza occhiali. C'è ancora tre antenne abbassate, non riesco a tirarle su, c'ho problemi col rotore, che non riesco a... è stato costruito il control box nuovo, ho problemi con... sembra che vada bene con Arduino riprogrammato, però c'è qualcosa che non riesco a far andare in col multigiri, ho costruito un circuitino, ma c'è qualcosa che mi sfugge, non entra la tensione giusta, sono due giorni, però c'è l'altro quello dell'antenna dinamica. E lo stesso, ho l'encoder che è diverso dall'encoder dei motori che danno loro e non riesco a qualche microcontroller, qualcosa, però non ci sono buono, molto bravo con queste cose, io con programmazioni, questa roba qua non ho molta dimestichezza. Scusate, riprendo il tempo, vada. Attaccaci una domanda alla tenda, oppure chiamo la tarda, mi ha portato la... Ciao, ma chi è Gianni Doppio Rum? Dopo è Eugenio di Pocotopes. Eugenio, un genio, pensavo che era Gianni, mi sembrava dalla voce, vabbè. Ma non ho capito chi sei tu. Io sono uno nuovo, che gli hanno dato questa cosa e tu schiaccia e parla, e io scusi sto facendo. Bravo, bene, sto andando un po'. Sì, voglia, così si fa, sono un uovo sono, un uovo sono, devo schiacciare e parlare, poi imparami tu, dicevamo noi, e poi una volta era fatto quello, diceva, ma sei peloso, perché a noi ci piacciono le persone pelose. Così ci piace, cazzo, devo riuscire a fare questa cosa, c'è l'antenna a terra da sono tutto fermo da ottobre, no, da miseria, ho ripreso, devo rimettere tutto su. Vabbè, l'ho abbassato un mese fa, ma ho dovuto rifare tutti le commutatori alle antenne, tutto grigiato, tutto rifatto. Non immagino, anzi, devo ringraziare se è vivo, ringrazia quello, poi gli apparecchi se la piglia in culo a un certo punto, meglio la vita che gli apparecchi. È come avere un Ferrari per dire se è vivo per miracolo, a un certo punto la macchina se la tronca in culo, la macchina la puoi comprare quando vuoi per dire, ma la persona non si compra, no? Una volta che è muscia, boh, allora vai, visto il dove è seduto, sei tranquillo che ti ha avuto un buco in pancia. Già lo so. adesso ho acquistato un 910 nuovo, perché il mio era andato, solo recuperato a scala di 1200, il mio era andato con la più riparabile, cambiati i fidani, ma c'erano problemi con qualche processore, vai e vabbè, l'uso come pezzi, può servire. Ho preso poi un altro nuovo buo che è l'8820, il 2125 c'è la riparazione, anzi ho fatto anche i finali, ma continua il prefinale, c'è essere qualcosa, però non ho tempo di controllare. Il 9000 posti, il 5000 ce l'ho ancora in scatola, adesso sto aspettando un po' di apparecchi, li ho ricomprati, un po' di commutato, un po' di roba l'ho ricomprata, ed è solamente da tirare sugli antenne e iniziare a fare prove, se ci vuole anche per quello, ci vuole tempo, e giusto impazzendo col rotore, magari riesco a metterla a posto, vedere che quelli giocattoli che vendono vanno bene, il 1000, il prossimo, l'ho costruito io, e quindi sto cambiando il sistema di controllo del motore, prima lo controllavo con lo stesso protocollo dello Yaesu, adesso invece lo voglio fare col protocollo dello Full Encoder o col multigiri, quindi sto uscendo di testa per quello, non sono molto ferrato su questo Arduino, programmazioni, che ci studi un po' di più. Ma se serve un motore, cioè un rotore per direttiva, c'è, lo stanno vendendo, si porta una persona e parli con la moglie, perché c'ha alcune cose in pratica che sta vendendo, ti mette d'accordo con lei e ti ritiri tutto, hai capito? Non costa niente. C'ha rotori, c'ha antenne, c'ha dice, non lo so. Quando ti vuoi far vedere, me lo dici, io parlo con te e tu parli con quell'altro. Mi metterò d'accordo. No, stiamo parlando di rotori grossi, non del 1000, se c'è il 1000 già per lei, no, stiamo parlando di rotori, io sono un rotore grosso sotto, grosso. Molto grosso per far girare quello che c'è sul tetto e non spaccarlo col vento, il 1000 l'ho disintegrato due volte, no? Il frantumato, ho costruito proprio un motore appositamente per far girare roba pesante, per capirci una puffa dei soli che c'ha Valterini, è un po' che sono diciamo come quello più grosso della Prossista, lo potrò paragonare più o meno. Quindi parliamo di roba grossa, è tutto pronto e funzionava, dopo potrei ricostruire la scatola come l'avevo fatta l'altra volta, ma voglio farla più semplice, eliminare il corso e tutto quanto e farlo solo con l'Arduino, però Arduino è arduo se non lo sai usare, se non sai come fare, capito? Non sono molto bravo, ma già ci studio, vedrai. Ho capito, quando lo sto dicendo io, c'è quell'antenna fatta a cerchio lì, che pesa più di 30 kg, e la girava col motore, solo quello che sto dicendo, con l'antenna proprio fatta a cerchio, per multibanda, già ne hai capito, e quindi è ancora lì col rotore, quello non sai che funziona tramite apparato, ci sono le commutazioni, ogni banda che va e lui si commuta da sola e gira. Stiamo parlando di giocare 30 kg, a me per da solo il master 30 kg forse, non anche di più, è solo il master. Io quando sollevo, io penso che ci siano 80 kg, mi pare l'antenna, la 1, ho preso almeno 300 kg, li porto su, miei carrelle, antenne, almeno un rotore, forse anche di più di 300 kg, infatti c'è un motore elettrico, però io almeno 300 kg li porto su. Io pensavo un motore come rotore, no? Pensavo un motore come a salire il calice, una cosa diversa a quello. Tutta un'altra cosa quello lì. Aspetta che corpo. No, quello che ho detto io per dirti cosa c'ho sotto, però sul rotore sto lavorando, per dirti c'è il motore, per dirti il peso che c'ho circa, per dirti che non ho, okay, solo l'antenna che deve girare, ci saranno almeno 120 kg di antenne per farle girare, capito? Per quello ti sto dicendo. con rotori, il 1000 se lo mangia, lo Viaggio 1000 se lo mangia, lo disintegra, già provato, non serve a niente, ci vogliono rotori, allora per quello che ho preferito costruirlo io, non sono sicuro, solo che ho problemi adesso per la rotazione, l'ho usato 2 anni, poi purtroppo quello che è successo è che mi ha mangiato la scatola di comando col control box sotto, allora voglio fare un lavoro diverso questa volta, però è un po' più arduo. Allora proseguo qua adesso, proseguo a... ce la sto lavorando, ho preso un circuitino che non riesco a tararlo, anzi riesco a tararlo ma no, accoppiato con la scheda, non sta andando come deve andare. Va bene, proseguo, a dopo. Vabbè, a dopo. Ok, ci sentiamo. Meglio così. pratica è sopra la bobina arrivata alla ringhiera di quello di sopra. Pensa tu. Quindi cosa ci vuole? Altre due spezzoni di palo per uscire dalla mantovana? Allora, quelli che ho procurato io, vabbè che ne ho tirato uno quasi tutto. L'altro che c'ho, il terzo, ancora no, neanche il quarto ho tirato. Sono 2 metri dovrebbero essere forse. Vabbè, ora ci siamo, linea di massima, Daniel. Sei fuori, vedrai che vai molto meglio, comunque, ripeto, qua sono 9-10, quindi non è che... non è che ci siano problemi, vabbè. Ok. Che ci avvendi oggi? Ti stai ritirando o stai arrivando a Sassari? No, mi sta fermando. Mi sta fermando, devo andare un attimo a fare a comprare una cosa. Sì, ne approfitto, ci sentiamo dopo che sono arrivato. Ci sentiamo quanto va. Devo fare veloce, non sa mai che chiudo all'inizio. Ciao, a dopo. Ehi, secondo che negoziare è chiudere alle 7:30, se no alle 8. Ciao, a dopo, IG. Quindi da lì un paio di metri sei fuori, dai. Sì, cra. In poche parole sì. Soltanto che devo di nuovo ricenderne il tutto e spingere le staffette appena più avanti, mi sa, almeno, occhio a croce, poi da vedere, bene quando salgo. Staffette più avanti, ma scusa, le staffette che hai preso non sono quelle che si fora, che si girano per stringere, quelle lì a tassello, quelle lì hai preso, però hai preso quelle sporgenti per uscire dalla mantovana, quelle hai preso. No, è tutta roba riciclata, ce l'avevo qua io e... saldata tra a un pezzo di al ferro L, capito, fatto da 50, però devo uscire ancora un altro po', capito, per andare il palo dritto, almeno a occhio così, poi domani me lo guardo meglio. E oggi un peso a occhio hai fatto, le cose lì, Daniele, per fare un lavoro fatto bene, oggi va fatto tutto a misura, perfetto, le distanze, gli ingombri, tutto, se no c'è una cagata, Sarebbe già impressa, aspetta, fammi liberare da queste cose, se lo facevamo assieme, se lo fai a occhio magari una staffa più avanti, l'altra più indietro, esce il tubo a culo di scimmia, lì va preso tutte le misure, fatto bene, perché viene un bel lavoro se è fatto bene, lì capito, viene un bel lavoro, però se vai a trovare il doccio è brutto qui da vedere. Vabbè, controllatelo domani, al limite ritagli e la sposti appena piovato, già ce l'hai la salvatrice. Sì, no, le staffe sono dritte, allineate, perfette. Però non è il programma di far la salire così in alto, capito, Cla? Però, sì, adesso devo vedere, forse ci siamo, perché stanno le misure, perché alla fine è 30 centimetri che devo uscirne fuori, capito? Dovremmo esserci. Sì, se non quelle staffe che avevi già vanno bene, esci giusto a filo la mantovana, quindi va bene. L'importante è che ti sposti, ho capito, la piastra ti devi spostare, perché è troppo in avanti, devi spostare un po' più indietro, non più avanti devi spostare perché è troppo indietro, vabbè dai, una cazzata quello lì a farlo. Va bene, esci. Io ho preso i cantieri oggi, mamma mia, che ho preso questo impegno. Speriamo riusciamo a terminare prima che arrivi il caldo, perché se no sono stanco, fa male, bella schiena. Ma io non è che facevo niente di che, però sono tutto il giorno andando e tornando, in piedi, non so, c'ero tre volte giù, due volte a remate, una volta a Capolino. Furgone, poi ho tornato a salire, poi è arrivato altro materiale, lunedì, domani sabato avevo lavoro, lunedì è arrivato materiale, abbiamo finito di mettere i paletti, vabbè dai, comunque siamo a buon punto. Mamma mia, come sto, questa mobilità che ha bisogno. Le giornate bisogna impegnarle, Cla, dai, piano piano. Tu pensa che oggi c'era anche la scala aerea qua di fronte a casa, di fronte, molto prima di casa, dai, vicino a casa di Antonio. Vai, tu mi sai, do un fischio, dico di girare qua un attimino prima di andarsene e faccio il lavoretto veloce veloce. Ah, questo che sono i cantieri, sono della Novalte, quelli di funzionano, hanno legge, ho capito, non si possono spostare, perché ci vuole, sono un noleggio con conducente, quindi l'altra, quella di Giovanni Trasera, mi ha detto, sta finendo un cantiere, appena finisce, magari però quella è proprio dell'impresa, capito? Ma queste no, perché sono un noleggio con conducente, ci sono i conducenti che hanno firmato, ci hanno loro in consegna, no? Non ti ringrazio. Quella invece è dell'impresa, ce la posso prendere. Capito? Però impegnata. Vabbè dai, vediamo ad arrangiarsi, va bene, tutti lì. No, già ti impegni la giornata. C'è un bel cos'è a fare da lì. La campagna, sono impegnato con questo cantiere, queste cose. Tanto sono stanco molto. Ci sono uccidendo a incubi, per carità. Lo credo. Almeno va, veramente procurando anche una scala aerea, anche se lavori se fai lavori dalla ringhiera, sali le staffe e poi se te lo fai da fuori e fai molto meno fatica là, alla fine. Sì, ma se c'è il posto per staffare, attrappano già, a quanto stai a stabilizzare, a fare, tirare giù sul cestello, ancorati e tutto, gli ha fatto un buco, lui, lascia perdere. Non è perché l'altra, quella piccolina, è andata via quando hanno cimato gli alberi, quando sono venuti in campagna per cimarmi gli alberi, se no rientrando sarei passato e l'avremmo già fatto, ma tu non mi hai detto niente, mi hai detto che l'avevi messa così volante, quindi se vuoi fare il lavoro fatto bene io non ce l'ho a disposizione, se no l'abbiamo già fatto il mese scorso, capito? No, sono ancora prendo bustine, te l'ho detto, sono arrivate 3 metri mila, 7 metri cubi in campagna, come forense, quindi è stato tutto il piazzale, tutta la discesa dopo il cancello, perché c'era una discesina che non mi piaceva, e quindi tutta rifatta, tutta la piazza, sono ancora due di china, e poi adesso sono qua a casa a Carbonazzi, che stanno facendo lavori, e già un'altra sera mi ha chiesto la cortesia, ci regalo una mano a seguire un po' questi giovincelli che ci sono, perché è arrivata un'ispezione dell'ispettorato lavoro, l'auditi si è fatto a casco, si hanno salvato a fermi l'acqua. E allora mi ha detto, capito miei. E quindi sono sempre o qua, oppure vanno in campagna, oppure non so fare, non è più materiale, grande e torre, ragazzi. Su quel 2 di china non l'avevo fatto più, vabbè dai. Quello è l'affare, però Daniele, quello bisogna farlo, un attimino, con pazienza, bisogna farlo. Sì, ma c'è il problema, perché voglio giocare ancora un'altra cartuccia a disposizione, che è ciocca, capito? Così, se quella cartuccia si può sparare, funziona, ho fatto bingo. Così si può fare con calma, senza scala, senza niente, lavori tranquillo, senza tirarti il collo e andiamo a nozze. Io che per lì, quel cazzo di vicolo, a mettere la tua scala è un problema, perché non è piccolina, quella che c'è Andrea, il giorno fa sera non è piccolina, pare sia un 35-10, un 35-12, se mi ricordo, però c'ha i stabilizzatori anche abbastanza grandi, capito? Un 12 metri, abbiamo usato per fare i poggioli con i bassi, poi abbiamo preso quella alta, la 22, vabbè dai, vediamo. Tu guarda cosa puoi fare e poi fammi sapere, capito? Sì, claro, perché cavolo, veramente oggi come abbiamo fatto qui, come hai detto quella lì, guarda, non mi servono più, vieni a te, il cazzo è andato veloce prima di cambiarsi idea. Come hai detto così, sono salito a casa, ho preso le chiavi, via, smontata. Pronti. E messa lì, si è messa alle staffette, provvisoriamente. Poi domani che ho tempo vedo di lavorarmi l'altro. l'altra ancora, diciamo, l'altra persona, se mi dà il consenso di accedere e tutto va bene, tanto palo ne ho. Eventualmente ci vorranno altri due, appena più grandi, a colare questi due che ho recuperato oggi. Se si è liberato Andrea, devo attaccare tutto il sistema mio delle direttive. Due per l'atto di quelli che sono belli robusti, capito, e tanti non li uso. Però Andrea è ancora impegnato, sta finendo una veranda. Non ben tanto, questi giorni c'è sempre il vento. Se no, quelli che ho io sono eccezionali, tutti, capito? Tanti io li devo smontare tutto, devo togliere tutto. Porto tutto in campagna. Qualche tubo già c'è, soprattutto quello dell'antenna piccola, lì sono due bei telescopici belli tosti, però se non riesco a avere tempo anche per smontarmi l'antenna mia, è così purtroppo, Cla, è così, si pensa sempre a fare il resto, per le cose proprie non c'è mai tempo. Rieccomi. Via già. Lo so, però io non è che posso lasciare gli impegni che ho preso, soprattutto perché siamo molto amici con Andrea, eravamo a scuola assieme, diciamo che c'è la mia, c'è una bella impresa, infatti lavoro, quello che ho fatto prendere io con tra un trattore, un bellissimo lavoro, oltre 60.000 euro, capito? E quindi resto una mano così, già. Adesso lo merita perché è un grandissimo amico, quando ho avuto bisogno c'è sempre stato, quindi. Però sono impegnato qua, c'ho da fare un sacco di cose in campagna, insomma il dia mi arriva materiale che hanno in campagna, perché devono venire i muratori, c'è da finire, che hanno messo il cancello elettrico, c'è da finire tutte le bordature del muletto, tutte le cose, quindi vado lì, poi devo stare qui, poi vado lì, poi devo stare qui, c'è carabino, c'è una cubilità. Finisca questa odissea, spero prima d'estate. Mi smonto tutto, mi giù tutto, non gasare la Iana, io ciao, arrivederci. A giugno, luglio, settembre, ottobre, vai, rilassamento totale. Avanti già, e lo vedi, io sono andato a portare il cane, ma anche tu sei uscito. Mi sono dovuto assentare perché dovevo spiegare una cosa all'ultimo momento, vabbè, una cosa, un imprevisto, dai. Io ne approfitto, QRT per me, grazie al QSO, un saluto a tutta la ruota, ben sentiti, insomma, Daniele, Antonello, Eugenio che ho sentito l'ultimo passaggio, Claudio, Marco se l'ascolto, insomma, un salutone a tutti, ci si risente molto presto, ok, buona serata a tutti, bye bye. Ciao Giada, un abbraccio, fammi controllare domani mattina. Intanto forse riesco in massata che devo prendere, devo scenderne un divano, mi avevano portato, non volevo portare, devo portare in campagna, quindi controllo se c'è quel cavo che ti ho letto, te lo metto a parte, sarò se no, infatti, ma qui 15-20 metri, così te lo cambi, visto che quello è rigido, tutto consumato, ti metti quello lì, tutto questo materiale che ho è tutta roba avanzata, però tutta roba nuova, capito? Meglio sicuramente di quello che hai. Poi se ti serve PL fammi un fischio, mandami un messaggio su WhatsApp, così ti metto a parte anche il PL, poi vediamo di vederci, insomma, più provenienti. Ok, ciao, a domani se coincide, buon fine serata, vai Daniele per salutare Gianni. Ciao Gianni, ci ascoltiamo domani se coincide, dai, buon fine serata. Ok, grazie a tutti, ciao ciao. E babbo Stefano Daniele, riposendice. E allora, ormai sta facendo casa serena, sempre in casa. Oia, è uscito a farsi, sono usciti poco fa a farsi un giro, a fare un po' di commissioni, e adesso nuovo a casa, davanti al televisore, dalla mattina alla sera. Vedi il graffo, vedi, per uscire, cazzo, non deve stare lì, no? Poi, per uscire, mica si ricordonisce, sto dicendo io, i primi mesi la stavo prendendo male, davvero, stavo per rientrarmene a lavoro, perché se lasciamo la prossima società, ma con vero che sei guapo. Però è brutto, è brutto. Se non ti impegni la giornata è brutto. Io fortunatamente l'ho fatto 13 perché tra la campagna e questo impegno che ho, però questo penso che ancora un paio di mesi poi abbiamo finito e forse neanche, non facevano più le parti basse, non facevano tutte le decorature ai poggioli interni, quindi penso che un mese e mezzo ancora ce ne sarà, poi verrà ritirato tutto, tutto il materiale, tutta pulizia, mettere a posto, eccetera, però io poi andrei. No, a giugno mi dice, ah, fatemi la chiesa, ma perché non vieni con me? Così mi dai una mano, dicevi, i cantieri, soprattutto ci sono le autoscale, queste cose, diciamo bene da voi, lo sa, se facciate, fa molto lui, capito? La diritta mi fa una cosa, quando hai necessità, lo sai, mi chiami, io vengo, ma non mi impegnare tutto il giorno, perché gente, io ce la fare così mi. C'è una campagna che ce n'è da fare ancora, io penso di farcela andarmene definitivamente, però ancora c'è un sacco di cose da fare, quindi non è che posso stare a aiutare gli altri, lasciare le cose mie indietro, capito la mia, se no bisogna impegnarsi, qui non conoscendo nulla, lì fermo, a caccia, non andava a caccia lui. Sì, all'epoca abbiamo lato anche quella, tanti anni fa, ma lui era sembrato vero andarsene in pensione, capito? Lui andava a lavorare, era una punizione, era diventato, ogni mattina lo accompagnavo, oh, dice non ne ho più voglia, non vedo l'ora, stava facendo i conti alla rovescia, stava facendo. E com'è che ho visto a Savropulina quando l'ho visto io al mercato, sabato scorso sono andato a comprare la carne proprio per portare in campagna. L'ho visto sta ancora lavorando, Alessandro mi pare che hanno iniziato assieme, anzi forse lui ha iniziato prima Alessandro Pulino. Sì, mi sa di sì, cla. Papà è iniziato prima di lui. Sì, perché papà c'era, no ma c'era anche Sandro quando c'era in procura del Taroncao, poi c'era Saievo, poi c'era Porco, e vabbè, mi erano arrivati tutti i procuratori, sia uno che l'altro. Sì, sono, si erano girati tutti, diciamo. Sono il pecco che è stato e che poi l'hanno messo in archivio e non lo poteva soffrire, capito? Da quando hanno fatto i tagli, che gli autisti erano lì buttati, si va personale e li hanno messi negli uffici. Da lì, è stato la rovina sua. Per forza, perché lui usciva, conosceva il procuratore, diceva anche lui, stava in giro, si muoveva, a me lo dico. E hanno fatto la malattia quando mi avevano messo a Cosio, a Trucco Reale. No, no, ho trovato l'occasione che l'azienda aveva bisogno di una depurazione e mi sono fatto sostituire subito, poi mi hanno dato l'incarico appunto dove mi avevano dato e quindi stavo sempre in giro, era, non dico una pacchia perché già lavoravo lo stesso, però vedevo gente, stavo in giro, capito? Quando sei chiuso in quattro mura che devi fare il tuo turno, mamma mia cosa vera, per carità, bucci bucci, no no no, e già me l'aveva detto, non l'ha detto, ma penso che Sandro non stia più uscendo, non so, intendo un grassone che anche lui tutti i sabati lì allora guarda il mercato, io lo vedo spesso, vanno qua con la graffetta sua e vabbè, però dillo di uscire, dillo di uscire, ma perché in macchina non sta guidando più? Claudio, oh, guarda, questo è standard di Napoli, com'è? Saturo T. Ora, c'è niente da fare, no? Non c'è niente da fare quel baracco, che pensavo che sarà facciata. Boh, sì, io non sono un esperto in quella materia, su quella roba lì. Lì te l'ho detto, bisogna metterlo sotto strumentazione e vedere perché è sacro. Proprio una cosa impossibile. possibile, anche a 5 watt, come abbiamo fatto le prove. L'unica cosa è quando li metti il microfono a tavolo, allora riesce a comprimere e superare la saturazione. Eccolo, questo qua è l'altro. Niente, va fatto le connessioni per provare, però non va, vabbè, dai. Io comunque ti ho preparato tutto. Poi ti mando un vocale, dai, ti spiego com'è la situazione. Ok, riprendi Daniele un minuto che mando un vocale a Tino. Va bene, dai, ciao, già sono andato nella luce, dai, dopo sentiamo più tardi. Manda, che l'altro ascolto. Ehi, a te. Aspetta un secondo, Daniele, un minuto solo. Ehi, fai pure, fai. Mamma che guida, oppure li accompagno io. Come mai questa decisione? Decisi. Detto che c'è tutto fatto. Non ne vuole più sapere, si deve riposare adesso. Adesso è compito degli altri, io ho scarrozzato troppa gente per anni e allora basta. Lui ha guidato per anni, gli ha ragione, faceva l'autista. E poi chi è autista, no? Autista di... Autista con grande responsabilità, quindi ha ragione. No, io senza macchina sono morto, niente. Oh, io mi ero una topolina, la piccola, mi muovo bene, passasse, le vado e torno, poi c'è anche il filmone di Andrea a disposizione, il camioncino, c'ho tutte le chiavi io, quindi non abbiamo problemi. Anche quando l'altro giorno sono andato a cosa ritirare un divano, ho preso il camioncino, però siccome non lo voglio lasciare giù in campagna perché sto facendo ancora lavori a idrocolatura e altre cose, e abbiamo portato su una sarda, però sono finito e domani non carico, ce lo scendo col camioncino, vabbè. No, mi devo uscire, cazzo, devo uscire, andare con gli amici, faccio una partita a carte, stare attento, certamente, perché magari quando sei in compagnia un giochetto esci sempre, però devo uscire, cazzo, se rincoglionisce così. E avanti le lingue lo stiamo dicendo, niente da fare. Anche se si riprenda tra un po'. Sì, vabbè. Ci vuoi lui e chi mi vede 10 con me, ma io stai, che ti porta un posto. Vabbè, lui ha fatto anche rappresentante sempre in giro a destra e a sinistra. Rappresentante, patatina, merendina, queste cose qua. Quindi ha voglia che ha girato anche lui. E che non ne ha fatto chilometri da me. Facevo quasi 120 al giorno io, solo per andare a lavoro. Solo per andare a lavoro, senza poi con la macchina mia, ultimamente, gli ultimi 2 anni, perché le macchine, dicevo, i costi erano saliti e quindi ci erano tolte da casa. Ma poi prendevo quella, ne facevo altre 300, 250, quindi Riferra fa 400 km al giorno, quindi in mezzo quando andavo Olbia, a stare in mezzo al traffico Olbia è come prendere una pistola a sparare. Non mai adesso sono stato poco lì, capito? Vabbè. Va bene, va bene, va. Già ripasserà anche questo mancantesimo, poi c'era il mancantesimo andarsene in pensione, non aveva più voglia, adesso ripasserà anche questo. Va bene, va bene. Questo ancora non si è ripreso, è morto. Che è avanti? Buonasera a tutti, Gianfranco. Mi interrogativo per Claudio. Ma sei ancora lì, Claudio? Non sei ancora trasferito? Ciao, Gianfranco. Soltanto devo rispondere a un messaggio. Gianfranco. Trasferito, lo posso trasferire anche adesso. La cerca, me la rete, c'è tutto, ma non... Non ho voglia di stare vai vieni, capito? Le comunità principali ancora ce le può. Devo finire definitivamente. Ho collegato il fotovoltaico quando è? Un paio di settimane fa. C'è il cielo elettrico, tutte le cose, però le comunità ancora ce le ho qui, capito? Però spero il più presto possibile. Poi c'è il problema della vendita. Il problema è che io non muovo, io voglio quella cifra e basta. Se me la danno, me la danno. Se non me la danno, chiudo la porta, ma va lo stesso, Non è che devo aspettare, oramai quello che devo fare l'ho fatto, quindi non me ne frega niente. Anche perché poi stiamo venendo anche con le vie di San Francesco, una parte, abbiamo già fatto metà, siamo all'altra metà, quindi potremmo rientrare anche quelli quattrini, però sono ancora così già fra. Da giugno a ottobre sicuramente, però il trasferimento totale ancora no. Sono un sacco di cose a finire già fra, capito? Sì, ti può chiedere solo una cosa? Ma da dove sei tu, verso il mio frizzante? La vedi la mia zona? Tu sei molto più sotto però. Sono a 100, neanche 100 metri dal troppo ripetitore della RAI. Quello in cemento e poi il rosso e bianco. Sì, appunto. Ma come visibilità sei sul mio versante oppure sull'altro? E quindi magari c'è qualche attacco? No, no, no, sono proprio sul tuo versante verso Alghero, ti vedo, poi c'ho tutta la costa, poi c'è Porto Torres, tutto a peggio di qua. Secondo me è anche più alto di qua. No, no, no, vedo tutto, ti vedo, la tua zona la vedo. No, così ti mando un drone. Un drone armato quando nel caso splatter. Perché non c'ho qualche missile. Gianfra, stai sereno perché non devo assolutamente mettere niente, se non è niente. Io queste antenne le ho già promesse. È che lui è più impegnato di me, se no era già venuto a portarsi le mie. Quindi appena libero Andrea, anzi se si è ascolto la matta per i vari mobili, le tolgo tutto, le metto dentro le scatole, le metto la porta in campagna e le conservo. Non pianto niente, oh Gianfra, non pianto niente, nulla di nulla a me. L'antenna la 27 metto quella delle 2 delle 1 e basta. C'ho già un posto dove c'è la dipendenza che praticamente appartiene all'affare della piscina e basta. Capito? Metto lì su quella parete, tutte e due, una più alta, una un po' più bassa. Chi mi sente? Mi sente, chi non mi sente si mette le cuffie. Adesso rilanciamo l'altro perché l'altro collega, se no non va bene, facciamo ping pong e basta. Niente, secondo me fai male, cioè adesso non piazzi, ma meno male per piazzati almeno la solita manto o quello che è. E poi una V2 anche piccola, tanto grande non ti conviene con la zona, credo, perché si fa pezzi quelli pezzoni e gli altri, ma soprattutto quelli della radio libera che ti butterebbero a terra il segnale. Tu fai, quando io passo lì sulla camionata anche il telefono mi si imballa, per carità. Ma quanti non mi viene il nome, Tino, è possibile, no? No, è Daniele, Tino l'avevamo messo al telefono, tanto a farsi la luce. No, ma infatti non me ne frega niente, non vuol stare lì con i disturbi, con le cose. No, ma io lì c'ho una X300, ho già fatto le prove, la posizione in cui è messa, tranquillamente, ricevo tutto, trasmetto benissimo e non ne ho battimenti, capito? La 27 sicuramente non ce ne saranno, metterò o il 430 o il 440, ho conservato tutto già fra. Non se ne vai, non già me ne affrutti. Sono finiti i tempi di stare lì a cicischiare, a fare, non mi interessa, come vedi io sono tranquillo, sereno, per la mia strada, senza disturbare nessuno, non... basta, buon finito. Questo però per avere due chiacchiere, ma sai, non tanto nel periodo estivo perché lì c'è anche il divertimento, eccetera, ma nel periodo invernale due chiacchiere al baracchino, come abbiamo sempre fatto, passi un'oretta. e basta, però altro non me ne frutti nulla, anche perché lì è come qua, faccio parete, l'ho fatto a parete, lavoro, ho fatto servizio, ho fatto molto bene, mi devi tralicciare, io non devo stare a tralicciare, mettermi roba in mezzo alle balle e fare, no? Non manco bisogno di gioco, Gianfra. Devo stare sereno, tranquillo, dormire la notte, divertirmi e fare quello che devo fare. Vai Daniele. Gava, Gava, buonasera, amico. Non so chi sia. E niente, riprendi? Sì, si è attivata la radio, Daniele. Te l'ho detto che è automatica quel baracchino. Gava, aspetta che ho scoperto un'altra cosa. Che come chiudo il Mickey Green, aumentano, quando tu parli, per dire, aumentano gli altri e si alza appena il volume. Come sai quanto stai arrivando così? Quasi 9.20, sì. 9.20? Cavolo, so, Claudio, questa cosa è automatica, quando ne ha voglia si attacca, ma non ne ha voglia si stacca. Cazzo, sì, 9.10 non picchia 9.20. Ma che colpe, quella è colpe, come una pistola, capito? Quando scalda quella radio, o Gianfra, la radio Daniele, quando scalda è quella modificata. Prima parla normale, quando scalda si attiva da solo la scheda call. Amici, hai due. Ci sono anch'io, non so abbiamo fatto, buonasera. Sì, buonasera, sono alla stazione. Sì, macchina, sì. Io invece stavo guardando adesso, però non c'è niente, perché devo dare sempre quello, come si chiama? Il 590, che ce l'ho qua fermo, è troppo fermo, poveraccio, proprio. È l'unico apparecchio che non ha avuto gloria, avrà un paio d'ore di trasmissione appena. E vabbè, pazienza. Stavo dicendo, non lo ricordo più. È entrata un'altra stazione, fanno entrare. Sì, è genio in Baramute. Poi mi dici cosa ne vuoi realizzare di quella radio, perché me l'hanno chiesta, addirittura mi hanno chiesto la mia, 756, ma non l'avevo. Assolutamente, non si può più, ho la prima e la seconda serie. La prima l'avevo fatto cambiare anche il display, perché era tutto a righe, da Francesco, su un continente, e poi avevo preso il 2, non avevo né una né l'altra. Quindi magari se la vuoi dare le propongo quella tua. Avanti Eugenio. L'altro è Gianfranco. Avanti Gianfranco. Sì, ciao Eugenio, buonasera, non so se mi senti perché io esco sempre abbastanza basso come potenza. E niente, non sento più, ma sì, io ti sento comunque perché in ricezione sono. È formidabile, però in trasmissione sono a quel sforzo. E niente, riprendi Daniele. Cava, io Eugenio già riesco ancora ad ascoltarlo, non so lui se mi sente ancora. Va bene, meglio così, domani prova a salire un altro po'. Sì, ma non bisogna neanche risolvere il problema con il baracchino, Daniele. Non è possibile che un baracchino si attivi la scheda corte da solo. E lì c'è qualche falso contatto sulle di attivazione del sistema, quello che la mica ha capito, sicuramente. Te l'ho detto, bisogna. Vabbè, adesso ci mettiamo a quello con Massimiliano, facciamo un salto a bordo e lo portiamo, le porto anche il Typhoon 2, quello che c'ho io corte, che era fermo lo stesso, e sicuramente è lo stesso problema, perché per poter attivare devi darle un colpo, no? Io posso dargli di tributi un colpo, lo faccio controllare, andiamo, facciamo finta di andare a prendere un caffè a bordo, lì è vicino, no, ci volevo penso 40, 50 minuti ad andare, 50 minuti a tornare, e me lo portiamo. Sì, caro Gianfranco, Gai Este, capito mi hai? Sì, ti ho capito, ma lo sai come la penso. A me dare roba qua non mi piace, perché dal mio fornitore glielo do, se lo prende, se mi spedisce l'altra parata, fa fermo, se lo do qua, poi inizia, ma siccome non lo sanno usare, questo tra l'altro è molto più complicato, lo sai, quello c'è anche il USB dietro, decifra i segnali, insomma è uno di quelli abbastanza moderno, tutto pieno di tasti, se iniziamo a toccare i tasti non lo sanno usare, secondo il mano di Chepiti, è più una croce che altro, perché iniziamo a dire ma quello lì è così, ma com'è quello là, ma a me non mi piace poi fare scuola guida, capite? No, non è a Sassari, Sassari è una persona grande, una persona anche abbastanza accorta, non è a Sassari, è in provincia di Sassari, ma non è a Sassari, capito? Sicuramente non è neanche in provincia di Sassari, perché è un obiettivo. No, non ti preoccupare, se decidi, telefono, lo dici. No, voleva il mio, ma io non ero né l'uno né l'altro. Speso 220 euro per mettere il display nuovo al 756, la prima serie. Capito, nel frattempo avevo già comprato le due, me li tengo tutte e due, anche perché è molto bello adesso con il display nuovo. Praticamente è quello, il display è quello del 7004, non è che cambia molto. Nella prima serie, l'altro vabbè è quello lì, però è sul verdolino, quello lì è più bellino, è più bellino. Va bene, va bene. E cosa stavo dicendo? Sì, Danieli, basta che erano un po' più su, vediamo. Sei migliore, però adesso sei salito, vabbè. Tu come la schiena, non riesco a capire subito la sedia. Avanti, oggi, se ti sente da casa Daniele, beh, sicuramente sì. Aspettiamo quando arrivi, facci sapere. Da Via l'Italia, zona Via l'Italia, però l'antenna è molto bassa, capito? È un'antenna da casa, non è un'antenna di macchina, però è molto bassa, è coperta. Sta cercando di tirarla su perché sul tetto non la può mettere e quindi sta lavorando in facciata, capito? Daniele, io ho un anno. C'è, è che pure mollato, ogni tanto molla, riprende. Era qua mezz'ora fa, è tutta la gira in radio. Se n'è andato perché doveva andare a mangiare. Oggi bel tè. Avanti Daniele. Ehi, stai iniziando a perderlo oggi adesso, Stai iniziando a perderlo. Poi ho capito che dopo voleva provare se riusciva a sentirlo, così è. E beh, se ti sente da casa, sta arrivando a casa fra un po'. Allora se ti sente da casa, ma sicuramente sì, perché lui è all'ingresso di Porto Torres, capito? Quindi non ci avrai sicuramente vista ottica, ma già riesci a sentirti, dai. Va bene, dopo proviamo, dai. Ok. Vai Gianfra. Sì, stavo guardando se ce ne sono usati, ce ne sono un paio, ma sono tutti sulle 800. Tutti da Neus, il pezzo suo è quello, tutto lì, la cifra è quella lì di vendita, come usato? Sì, quello lì, sì, 800, cioè ne ho visto uno 750, uno 900, uno 850, ma il prezzo è quello. No, ma io, non sei altro nuovo, quello che ho io, la prima serie, 756, nuova, è funzionante, bene, funziona molto bene. Un po' superiore come ricevitore del 2, però quello piace un po'. Adesso ti ho detto c'è il display nuovo, il display del 7004, ma l'ha fatto Braga, riesco di Piceno, molto bravo. Ma tra andare, tornare alla radio, lavoro e tutto è 220 euro. La Sessongo voleva 200 euro solo il display. E poi altri 200 euro di manovra a Tavì, ha messo il display nuovo, è quello del 7004, poi ci vedi, infatti rimane il verdolino là, mentre quello là, il suo originale, sul biancastro, si vede benissimo anche quello, bellino, Sì, il prezzo suo è quello, Gianfra, il prezzo suo è quello. 600 euro vale il 756, quello che ho io, la prima serie, l'altro no, l'altro. 4 e più di 1000, però quello che ho io, la prima serie va a 600 euro, ma ho detto bravo, ma è tutto male, 600 euro messo a posto così, ma detto anche perché la tua nuova nuova non è mai stata toccata, il primo intervento è questo del display, che poi sapendo l'avrei fatta fare qua, perché mi ha detto che non è difficile, la spinetta bisogna sganciare, bisogna stare attenti, poi bisogna riallineare il display e tutto, che no, vai, ma oggi mi dà il bene, dopo mi sfasciano la radio e lascia aperto. Sì, c'è Eugenio, aspetta. Cosa ha detto Eugenio? Che Gianfranco non ti sente, cosa hai detto? Guarda, io ce l'ho sulla sedia, dai, in partenza domani mattina, anzi domani sera. Ce l'ho in partenza sulla sedia, proprio qua di fronte a me, gemello del tuo. Lo do perché ne ho tanti baracchini. Ho fatto sentire tutti i baracchini, piace quello e domani sera vengono e se lo prendono. Lo dice a me. È un bellissimo baracchino, ma io te l'ho detto dall'inizio. È un bellissimo baracchino, un grandissimo baracchino quello. Lo so, però io ne ho tanti, ne ho sei di baracchini. Che non uso, ho detto la scatola, cosa faccio? Tutti modificati, tutti. L'airbag se me lo sto tenendo, perché è un 120 canali con le bande laterali che mi interessa, ho il 48 mio, sono quelli non si toccano, ma quelli là gli altri li do tutti, tranne la 87, la 87 no, però Superstar lo sto dando. Vabbè, aspetta ti dico, se c'ho la fattura che mi ha mandato anche, aspetta dico quanto ho speso esattamente. Allora, sostituzione di display 756 più mascherie, azione, vabbè braga, sul vicino, vi pongo. Allora, il display è, figurati, da 200 euro che voleva la Samsung, il display è costato 130 euro più IVA. 130 euro più IVA, e poi ci sono, ecco, ci sono altri componenti, altre cose, boh, 60 euro, neanche, 40 euro di manodopera, e poi c'è il trasporto, 20 andare e 20 a tornare, quindi abbastanza netto, no? Gianfra. Ero distratto. Ma ho capito che avete lanciato a me. Sì, lo sento, però è molto, molto basso, capito? Sì. Niente, stavo vedendo un po', togliendo questo affare di spostare gli altri, perché ci sono, anche qua non c'è più spazio, no? Poi lentamente c'ho il 2000, che quello io l'ho fatto fare all'epoca che fu, no, alla cosa, a quello che ho nominato prima, CS Sound, è stato un patrimonio, un problema di frequenza, no? Poi c'era il difetto che dopo un paio d'anni è partita. Ma tutto revisionato, nuovo, usato anche quello pochissimo. Poi c'ho un 950 che stavo pensando di mandarlo a fare una revisione, però non so in Italia se la possa fare lì, perché non è, non è il 950 che pensi, è un 950 militare. È una cosa bellissima quasi. E poi c'è questo che sto usando, che è come quello che c'ha per il tuo, come quello che c'è, non so, DC 74. Però guadagnare un po' di spazio, ho capito, anche se non sono grandi grandi gli apparati, però insomma, oramai sono li usi. Ah, 27 stai usando il 7004? Sì, il 74. Sì, va bene, va bene. Molto meglio del 756, 27 non mi piace il 756, c'è la tramodulazione cupa, questa è più, va bene, va bene, lì l'avevo provato, quello che mi va meglio il 27 era il 1200 della IAESU, effetti 1200, il 920, quella radio lì, no, non sto bene, no, Gianfranco, non sapete. Lascia perdere, no, io, 74 sì, l'ho avuto, ho comprato un nuovo praticamente, ce l'ho con la scatola, l'avevo venduto uno di Alghero, ma io lo usavo soprattutto in VHF perché aveva 100 watt di VHF, poi ho comprato un 275H per le VHF e quindi quello l'avevo venduto, mi ha ottenuto la cioè 2756, fatto fuori 1200, 920, tutti quelli che avevo. Mi sono tenuto solo due ricco, fratello e sorella, e basta. E sicuramente gli sarò ben poco, perché non avendo antenne, poi vediamo se metto qualche di polo, forse di polo che ho, quello ragno da qualche parte, per fare solo 15, 20 e 40. Ma non mi interessa già fra proprio, non me la fotti tutta. Va bene. Daniele, mia mamma, sei pronto? Sto arrivando. Quello sta già cenando a quest'ora. E tra un po' a nanna. Puro, cioè, cazzo, c'era in fretta, presto, e poi se ne va con i cazzi. No, ma almeno è ingrassato. Ho sempre un chiodo, Chiodo, sempre più chiodo, Per carità, Stefano, lì vengo anche io, mi vede che lo porto io a spasso. Vabbè, non qua ancora, non è pronto. Però fra un po' mi pare c'è il Cagliari. Chiamo Cagliari, mamma mia. Addio. E come stanno Maria De Filippi? Non vedo più nulla. Caput, addio Cagliari, vai Gianfra. Sì, adesso mi sono ricordato il nome di quello di 950 dalla Barrett. Devo farmi un giro un po' per vedere chi ci può mettere mano per farle una rinfrescatina, come tarature, eccetera. Quello sì, quello lì è piccolo, è molto più piccolo anche del 590 dalla Quintus, ma è uno spettacolo l'apparato, veramente un veicolare, però è una HF. Figurati che non c'ha fatta banda, non c'è niente, non ne ha bisogno praticamente, c'è un ricevitore che se li mangia gli altri, senza neanche avere, però non c'abbia neanche lo squelch, figurati, o meglio ce l'ha lo squelch, però è ricco di elettronici, no? Che si importa. È notevole, va parecchio. E niente, sì, questo qua. Loro, sto pensando di dare anche un coso, come si chiama il microfono? L'MD-70, perché anche di quello non me ne faccio niente, lo sai che preferisco questi, che mi avevi consigliato tu, quelli neri, che sono tutti in plastica, c'hanno tante marche, Avai, Prime, adesso la sigla non me la ricordo, col campo flessibile, mi fa intenderci. Sì, tipo quelli della Donis, sono la V908, 508, 608, lo fa la Voxu, lo fa l'Arval, lo fa un sacco di marche. Vanno bene, è che se prendi il 908, cazzo, è un barragione, no, mamma mia. Va bene il 508, quello va bene, capito? No, io quando ho dato il 1200 l'ho dato Andrea. C'è anche il microfono, capito? L'MD100, c'è tutto. Magari l'ho comprato troppo in fretta, pensavo fosse più bella, a me non piaceva. Preferisco più l'adattore rispetto del 756, del Pro 2 e anche del Pro normale, perché sono molto più belli. Tutto quello rimaneva fisso. Sì, come si spostava questa lancetta, cammina su, anche no, andiamo in bezzi. Allora, Andrea gli ho ritirato 9,20, mi sono venduto 9,20. Capito? Mi sono venduto 9,20. Perché non facevo niente. Mi sto per fare un favore a lui, ho fatto una radio nuova di ultima generazione e gli ho fatto fuori quella là. Cioè, no. La sarebbe, io non... C'ho altre, già lo sai, no? Tu l'hai fatto prima di me, ti sei trasferito prima di me. Sto solo contando quelli che escono, ma tanti, mio Gianfra. Un bene se scendi, e continueranno a uscire. Non me lo dire a me, perché io sto continuando, perché non basta farlo, le cose pure le devi anche mantenere. Quindi sta impianto di video, semplicemente faccio tutto io, è praticamente un secondo lavoro, gestione dell'impianto video, sì, il cancello, l'ho piazzato io, o meglio l'ho elettrificato io. Poi la pompa dell'acqua, il tic e trac, una finestra, se ogni giorno attaccata a queste cose, perché c'è questo clima che è micidiale. Io ho mai visto, guarda, stamattina ho dovuto attaccare la pompa per togliere il ghiaccio dalla macchina e tutto e tutto. Non ho bisogno di impianto video, ci sono due cani a 70 kg l'uno, no? Più il mio piccoletto Pippetto, no? Non bisogna impianto video, c'è un'illuminazione fantastica, c'è tutto il vialetto illuminato, ci sono i fari sopra, cancello sì, lì c'è la telecamera, con cancello elettrico con la telecamera, però non ho bisogno di due camere, no? Probabile che ho cancello due entrate se ne ci sono, non penso proprio, non penso proprio, già il quarto gatto che trovo questi figli, questi lì, no, non ho ammazzato, lasciato gli appetti, un pezzo da una parte e un pezzo dall'altra, quindi lascia perdere. Speriamo che non entri mai nessuno, perché allora sono dolori davvero. Sono due presa canario lì, non è che sono due cagnetti di chihuahua, quindi non è buccia di gioca e che non c'hai WhatsApp per mandarti il secondo che è arrivato. Cazzo, c'è la testa grande quanto è il pannello di un armadio, lascia perdere. Con noi presente sono degli agnelli, ma come andiamo via qui il cancello si muove, già detto in due, non si muove neanche io, vedi, un cancello, sono due cavalli, due mostri, e io dico, attenzione, non fare entrare nessuno, la baita dritta lei ci va a dire, vai che non passa lo straniero qua, vai Daniele. Già vabbè, mi devo zicla, almeno vai lì all'abitare, lontano dalla città e ti riposi, ti rilassi. Sì, mi rilascio, la tasca mi sto rilassando. Insomma, se ne vai. L'hai visto su WhatsApp la testa del cane, Daniele? Ho già fatto caso, aspetta che te la guardo. Il mio profilo, c'è la testa del cane, l'hai visto? Mi aggabbo queste borse. Ho già detto avvicinati, ciuppa! Di cavolo, già ho fatto caso, no? Nessuna abbezione che questa cosa. E sulla spiaggia, così è. Sì. Ma parola le manca, Ma l'intelligenza fa anche gare, ma quando è solo, tu va a vedere un cancello blu. Quanto fa il cancello apposta, capito? Tutti di quelli rinforzati, belli, a doppio braccio. Ficandoci buoni, tu immaginati, se quando si mette dritto il cancello è... Quanto è? 2,20, 2,50. È quasi la testa fuori, toglie. Che cacchio, e cos'è? Un cavallo è. Daniele, nella 600, quando io arrivo in campagna, nella 600, la mia 600, la macchina piccola che ho, la testa la mette dentro il finestrino, Hai capito? Non è che io proprio sportello, la testa la mette dentro il finestrino, e me la che l'orecchio dentro il finestrino, e buono, è un gabbo dentro il finestrino. Dritto, io sono 1,70, mi mette, quando se ne va dritto mi mette i piedi sopra la schiena, sopra le spalle, fate il conto, se mi arriva la lecce, buono un capo dritto, tutto mi dico, io esci che devo uscire dalla macchina, sotto ti fa uscire, 72 kg peso, tutte e due, sono dei cosi, non si dice, dei poni sembra, ha un capo dentro un cavallo, preso a Canarie, so. Sono dei molosci micidiati, si intergranfani, io. Ma tu non hai cane Gianfranco Campagna? No, preferisco sistemi più attuali. Se mi presenta che il cane tecnicamente è anche vulnerabile, volendo, secondo che ti casca in pochi secondi non è salito. Oggi ci sono dei sistemi, stiamo a dirlo qua, ma se abbaia un conto può servire come avviso, ma poi... può essere grosso quanto voi, e in estremo silenzio lo fai fuori già quando è lontano. Devo dire, se l'hai sentito, qualche settimana fa c'era quello lì, che prima c'era un cane, adesso non so la razza, non so cosa fosse, comunque era grande, sicuramente, molto grande, che si è girato al padrone, non so se l'ha addirittura ucciso o se l'ha aggrappato di brutto. La cosa strana è che questo cane e questo padrone non erano di quelli, sai, se il padrone non vuole bene agli animali, allora fa anche bene che si giri. È impazzito di colpo, così, di colpo l'è girato e ha aggredito il padrone senza nessun motivo. Una cosa strana. Era sul giornale. Ma se tu fa vedere con la cappella a Gianfranco, oggi non ti sento. Adesso ti faccio parlare con Daniela, invece dice sì, è col pastore Maremmano lì, quello che c'è subito dopo che non va, non lo so, sì. Ma lì qualche mossa falsa ha fatto lui, non lo so, il pastore Maremmano io lo odio, è un cane molto, è un cane, come si dice, falso, capito? Un cane falso, no, i miei sono cani, come si deve. Daniele, vedi un po' se ti sente Eugenio, io provate. Eugenio, mi ascolti? Perfetto, 0-2 siamo. No, va bene, anche ti ascolto bassino qua e c'ho un RM alto. Non so perché, adesso ritorno ai 3, però già di radio riesco a tirarti fuori. Va bene, un altro passo avanti, arriviamo sino a Porto Torres adesso. Ciao Eugenio, buona cena, buon tutto alle prossime, io lo stesso, un altro passaggino, poi vado a pappare, che sono già 8:30, avanti Gianfranco. Dimmi, ehi Eugenio, va bene, mandami un WhatsApp se non sono in radio, che accendo, capito, magari sono in campana. Ok, ciao, tante belle cose, avanti Gianfranco. No, ok, ma da dove trasmetti Eugenio? Perché io lo sento abbastanza bene. Sì, però la radio è perfetta. Non è affatto. Oh, scusate se vi interrompo. Io chiudo e vado a prendere la signora, dai, ci sentiamo dopo. Ehi, Daniele, salutamela. No, non è a... sì, a Porto Torres. Allora... Ma come dice se è stazione fissa? Ciao Daniele, buona serata. Alle prossime, stazione fissa, sì. Sì, è lì all'ingresso di Porto Torres, a Lioni. Arriva bene, arriva quasi 9 qua, il suo problema. Perché già lo sai, io c'ho i mezzetti di Monteoro, infatti. Avevo un programma di spianarlo tutto e quindi di guardare anche il mare. Vieni su nella parte alta, vicino a me. No, per quello che faccio io va male. C'avevo già. Cioè, ripeto, passando già mi accorgo che c'è troppo RF in giro e non mi piace. Qua è più riparato. È più riparato e quindi se non c'hai apparati buoni, no. Girando ti accorgi che ci sono tante intermodulazioni, quelle cose lì provenienti da... Ma guarda, più che l'antenna che è in alto, no? Più che quelle televisive, sono proprio quelle del broadcasting che trasmettono con 5-6 kW in VHF che ti spazzano via quanto c'è. Qua invece è tantissimo. No, te l'ho chiesto dove trasmetteva, perché siccome io ho l'antenna molto bassa rispetto a quello che potrebbe essere, cioè vuol dire che è formidabile veramente. Poi in trasmissione probabilmente non mi sente, ma io già lo sai, no? Trasmetto basso, sì. Trasmetto in basso, sì, no, quasi 9:30, non so quanto ti sto arrivando io, però qui c'è un buon segnale qua. Guarda Gianfra, evidentemente io sono su quello grande della RAI che sicuramente è isolato, anche perché c'è tutto il piantone molto alto, ci mette armato, capito, le antenne sono molto in alto, mentre invece dalla parte dove era prima Antonio, se ti ricordi, Antonio Monteoro, e lì erano tutti così tralici, tralicetti, tutti appunto le antenne di radio privati. Io non ne ho, lo sono io di radio privati, non c'è niente, non c'è assolutamente niente. Quindi penso di non avere problemi, perché tra l'altro io vado lì, che accendo la radio, nulla, lo squelci è chiuso, normale, come quando sono qua, capito? Non fa assolutamente niente, nessun disturbo, dicevo anche bene con Alghero, bene con... Mi stavo parlando con Domenico l'altro giorno, che da qua non ci arrivo, ma lì stavo parlando con Domenico in diretta lui a Uschi, mentre da qua invece non lo sento Uschi io, capito? Perciò per lì la zona è molto bella, poi tranquilla, ce n'è di, c'è due vicini favolosi, senza nessun problema. No, tornando ai cani Gianfra, no, per carità, è chiaro che se non ti vuoi fare del male che è armato, ammazza prima, però sono dei cani che ci vogliono, assolutamente, poi sistema telecamere quando ci abito, vediamo, però non è quello il problema, non temo nessuno io, già ce l'ho anche io l'arma, non ti preoccupare, non è che ho problemi, dormito una settimana lì, alla giura, quindi, capito, e c'è il coso aperto, il cancello aperto, quindi, cosa pensi che... Si entra a fede uno ve lo chiudo due capitolla. E poi adesso finalmente almeno sei autorizzato a difenderti. Prima invece ti diceva un poverino all'altro se le facevi male, adesso almeno per quello meno male, la situazione è cambiata. Quindi ti scavalca un cancello, eccetera, deve sapere, deve stare molto attento adesso. Sì, infatti. No, questi cani sono, non si fanno vedere, sono grossi, non si fanno vedere, stanno nascosti, aspettano quando tu salti a vedere se torni a uscire, cazzo, cioè pure la colpa mia, qui si è trattato di una proprietà privata, c'è anche scritto, capito? C'è l'edizio della stradina, proprietà privata, divieto l'accesso, quindi nel cancello c'è il cartello bello grande, attenti ai cani, non al cane, ai cani, quindi fatti che l'amicizia lunga, poi se qualcuno vuole entrare e fare qualcosa di brutto, già ce l'ho io la 9, sempre carica, non ti preoccupare, intanto riporto l'armi, non sono abusivo, perciò adesso mi prendo anche colpo di fucile, non so, perché sono anche un po' di vuoto a caccia con degli amici, mi sta piacendo, quindi anche quello. Va bene Gian, dai, sono le 9 meno 20, quasi meno un quarto, vado a cenare. Comunque, se sento qualcosa, questa me l'ha chiesta a me, una che se da non spendere molto, capito? Infatti aveva visto la mia finita, l'avevo mandato la foto, con il display nuovo 756 Pro, e mi ha detto se li aveva venduto, no, ma se dentro io me la tengo, ho speso 220 per metterla a posto, ma la tengo, capito? Ce lo sto accendendo più quella che l'altra, quello che mi piace questo display verdolino, che è uguale a quello che è tu, 1704, e ci vedete. Sì, per quello come display, lo vedi, poi sai quando arriva la nostra età, ti fanno piacere i numeri grandi, che li vedi. Io sto pensando un po', perché proprio, a parte che è un peccato, ma poi proprio non lo uso, già uso poco questo, non c'è apparati usati, ormai sono quelli, quegli altri, dei digitali, tutto questo oramai è bello che è. Le antenne ce le ho, comunque ne ho sempre tre, per HF, tutte le bande. niente. Fa la mano, non è più gana, non c'è più voglia, capito? Se è per usarlo, per non usarlo, è chiaro che è bello. Io già li accendo, cioè quando sono qua già li accendo. Li accendo, li uso, anche ieri stavo parlando con il Rosario. Italia Unifor 2, non mi ricordo la sigla, ci avevo fatto due chiacchiere con la cametta, io li uso, per uno per l'altro, però se tu non lo usi dallo già fra, se no è un casino. No, a me la prima serie, 75 pro, mi ha iniziato un paio di righine, ha detto no, boh, spariranno, spariranno. Ha fatto da una, due, tre, si è riempito tutto il display. Fortunatamente vedevo ancora la frequenza, però da schifo, insomma. Ha detto ma ottengo pezzi di ricambio. Ho trovato un 756 Pro 2, bellissimo, 1100 euro, nuovo, metto la scatola. L'avevo comprato. Sto parlando proprio con uno, mi ha detto, ma guarda che lo riparano così e così. Ho chiamato la CSON, mi sono fatto fare il preventivo, 200 euro il display, 200 euro la offra. Ho detto, sì, mi va a leggere dentro la radio. Sto parlando con proprio con Rosario, questo matto, guarda che c'è Braga, via sul piccello, così e così, mi ha dato tutto l'indirizzo, ho chiamato, ma sì, non c'è problema, con 200 euro facciamo tutto, ho detto, ma 200 euro sono dei suoi, ma no, 200 euro facciamo tutto, mandamelo su, dai, mi ha chiamato Rosario, non ti preoccupare, qui là, a 100 euro 220 euro, per andare, tornare e lavoro, tutto, ma bello, c'è lo stesso display del 7004 perché mi ha detto lui su quella serie lì, su quella serie lì si può montare il display del 7004, sull'altro no, capito? Quindi come che vede il tuo display, io guardo quello che c'ho io, lo tengo, stiamo muovendo da farlo a recuperare il tuo, mi esce una bettemiera di calcestruzzo di nuovo, mi seguo per comprare una bettemiera di calcestruzzo 650 euro, 7 metri cubi. No, ma poi dato pure. Non voglio dire a me che ho fatto il coso, ci hanno voluto due o tre betoniere, però ho fatto fare quello con quel cemento senza mettere la grata in ferro, di norma si metteva prima la grata saldata, adesso invece utilizzano una specie di composto particolare che lo rende più agglomerante. Un giorno si può passare con la macchina, se l'ho visto è BGP, dovrebbe essere, e questo probabilmente ripara anche il mio, forse. Non lo spedisco, perché gli schemi ci sono tutti di quell'apparato, c'è solo da trovare una vetturina, una bella tarazza e metterlo in efficienza, perché è un bel apparato. Io di HF in tutto, una volta ho fatto anche il conto, ne ho 5 credo. Qualcuno va fatto fuori, tra cui uno bellissimo, lo stesso portatile, tutto in alluminio, si spometra anche sott'acqua, è sempre generazione Armi. Come hai fatto? Sì, quello lì è già fratto. Tappalo, bravissimo, una persona bravissima, è molto molto onesto. E a me mi ha detto, qualsiasi problema hai, non toccare niente, rimandami la radio che mi arrangio io. Ma per il momento è già a posto. Sì, io ne avevo 5, tu hai trovato 1.200, avevo della Ejo, avevo l'effetti 1.200, l'effetti 2.000 e il 920. Questo dicendo, le ho date tutte e tre. Mi sono tenute due, padre e figlio della Icon, basta, più che sufficiente per me, ma non già andava a raccontare la radio. Qui c'ho l'820H base, sempre della Icon, V1. 910H, base, della ICO, sempre VU, 275H, della ICO, solo monobanda, Quindi, cosa deve fare? Tutti in base a 100 watt, sono più che sufficienti. È mio amico, i miei due gioiellini, 3x40, il resto ho fatto tutto, non voglio più fare niente, capito? Vabbè, dai. Comunque fammi sapere, mi te ci aggiorniamo telefonicamente, vai. Mi sta chiamando mio moglie. Bello, è già tutto pronto. Vai. Ciao Gianfra. Ciao Ranier. Se si è qua all'ascolto, Eugenio e a tutti quelli che sono in agguato, eh. Ci sentiamo domani, già fa tante belle cose, ciao. Sì, ciao, anch'io chiudo. Vabbè, casomai ci sentiamo per telefono, dai. L'importante, ripeto, lo sai, per me la cosa essenziale è che poi non abbia dottore scappo. Io lo lascio, lo faccio fare, tutto quello che si fare, però poi una volta dato il vento qua non fa per niente, come si vuole per il vento, quindi non voglio scocciarti lui, non sono tutto. Va bene, buona serata, anche io sto chiedendo buona serata a Daniele e a tutti quelli che eventualmente sono all'ascolto. Tranquillo, tranquillo, già ci aggiorniamo per telefono e poi ci mettiamo d'accordo. Ciao Gianfra, buonanotte a tutti, a domani, ciao ciao. Ciao ciao.